Sì, l'ho visto. L'ho visto, tra l'altro la ZG ne fa anche, questo è col bip più amplificato, poi c'è quello bip amplificato e con l'eco, capito? Adesso non mi ricordo se è l'M7 o l'M8. Ecco, l'ho provato, microfono M+3, Sanner M+3, vediamo un po' se c'è qualcosa in vendita, ma sicuramente saranno altri. Vabbè, se è un microfono serio sicuramente corticchia, dai. Non c'è più, è un'immagine vecchia anche questa, però vedi, già tanto che ho trovato l'immagine, quindi è M+3 il microfono. Eia, adesso ti mando le fotografie dell'apparato, quello Midland che ti stavo dicendo, quello che non funziona, cioè che ha smesso di funzionare, così te lo posso dire. Allora, vediamo un po' se... allora, esetta un attimino, dovrebbe essere questo, aspetta che te lo sto facendo tutto in diretta. Questo era lo stesso, me l'ha regalato un amico che ce l'aveva nel suo camper, però era tanto che non lo usava. Praticamente ha modificato gli arredi, un sacco di cose dentro e praticamente me l'ha regalato, ma insomma. Sì, lo conosco. Fai arredi un microfono esteticamente, che mamma mia, non vuole visto. C'hai l'up and down per salire il canale, salire e scendere. Sì. Il problema praticamente aveva il tastino MFM che praticamente non rimaneva. Quindi praticamente ogni tanto non usciva in AM, usciva solo in FM, poi praticamente a seconda passavo, lo lasciavo in più acceso, praticamente non usciva per niente. Io ho invertito il commutatore dove c'è scritto canale 19, ho scollegato il commutatore buono, l'ho messo in AM e FM, ho richiuso tutto, ho risaldato, ma non va. Ed era uguale come interruttore? Sì, era un commutatore, erano uguali, sì, tutti e due uguali, a 6 contatti, uguali. Non so cosa dirti. Vabbè, piccolino, cioè ho guardato le caratteristiche, mi sembra che in AM fosse un watt scarso, un watt e mezzo, quindi... niente, vabbè, la cosa c'aveva anche l'FM, però vabbè, quello invece che sto usando è vecchio, però è perfetto, cioè sta pedalando. Allora è un bel tratturino, deve essere. E adesso non voglio aprirlo per farti vedere com'è dentro, però è old school, cioè componenti, volanti, aggiunti, resistenze, condensatori, è come le vecchie cose di un tempo. Quindi. Ma aggiunte in che senso? Modificate? No, è come costruivano gli apparecchi prima, no? Molti componenti, praticamente, i componenti non sono tutti sulla basetta, molti sono messi in determinate posizioni, in determinate maniere, capito? Sembrano quasi aggiunti, capito? Sì, ho capito, una vecchia concezione. Ma c'è qualcun altro sotto? Mi è sembrato di sentire qualcuno, forse sto sognando. Può essere. Cazzo, quando passa Sirio praticamente si alza il QRM, cazzo. È normale. Lì c'è il pantografo che raschia, che sfrega sul capo, sopra, va. Adesso è passato Sirio, l'ho sentito, cazzo, si è alzato il QRM di brutto. E tutti i motori elettrici, quindi tu ce l'hai sotto proprio, no? Sì, molto vicino. Stavo guardando il microfono, quello della Midland, l'altro, però c'è l'attacco DINA a 5 punte, però se riesco a... lo voglio aprire, voglio provare per vedere se riesco a farci stare una batteria a stilo da 1,5, così riesco ad alimentare il microfono a condensatore. Io avevo un microfono, quelli da... che usavano per fare un gruppo per cantare, no? Era sempre a condensatore, era tutto in alluminio, ma non lo ritrovo più. Qualcuno ce l'ho buttato io, perché si era ossidato, mi ricordo, c'era la batteria dentro e si era ossidato tutto il resto. Capo, adesso provo... dopo provo a smontarlo, vediamo un po' se c'è lo spazio per la batteria da 1,5. Voglio provare l'accrucchio, perché quello Midland c'ha la microfono a condensatore dentro, però sicuramente veniva alimentato dalla radio. Non solo Michelin, però molti apparati hanno, hanno un'alimentazione, invece che a 4 furi, a 4 voli, a 6 voli, a 8. Vabbè, quello lì, visto che c'è il cambiacanali, c'è, oltre al microfono c'è anche il cambiacanali, quindi sì, sicuramente il microfono del condensatore è alimentato dall'apparecchio. Può essere, può essere. Sì. Stavo cercando quei tanner, ma non ce l'hai in vendita. Ma è la foto che hai trovato, non l'hai mandata? Che foto? Mi hai detto che hai trovato le foto del tanner, quelle in vendita, pensavo che l'avessi mandata. Adesso te la mando, no, stavo cercando se era in vendita, invece ho visto che non era, quindi ho continuato le ricerche, aspetta che la cerco. Ok. Prova a entrare nel link. Aspetta un attimo. Però ti ricordo che il mio era tutto nero, il microfono era tutto nero. Aspetta, lo sto aprendo. C'è uno che lo sta dando 40 euro più 8 euro di trasporto. Originale americano del Minnesota. Dove? Su eBay? Sì, su eBay. In più ci deve aggiungere la tassa doganale. Anche se non è nuovo? No, non c'entra niente. Dagli Stati Uniti ti mettono praticamente una tassa di importazione. No, ma questo dice che il microfono è originale del Minnesota. Però non si sa se viene a leggere bene se è già in Italia. Quindi non sai se il microfono è in Italia o è negli Stati Uniti. Sto leggendo. Sta venendo anche un Kenwood TS-140, solo va da 0,30 MHz, mi sa. Costano 300 euro, 140. Ma l'inserzione unita dov'è? In Italia o all'estero? Ancora non l'ho trovato. Allora, mostra. Informazioni sull'oggetto, descrizione dell'oggetto, aspetta che sto cercando ancora da dove arriva. Qua in alto, praticamente quasi in mezzo alla pagina, dove c'è il prezzo, lì c'è da dove sta spedendo. Allora, eccolo qua, Italia, Caserta. Ok, allora già meglio, dai. Sì, gli manca il connettore, gli manca, quindi c'è solo il cavo volante, dai. Quello già si risolve. Sì, qualcosa si trova ancora, dai. Bene, Meda. Poi c'è più 2, l'M più 2, quello è quasi a 70 euro, più 23 euro di spedizione. Vediamo dove arriva questo, aspetta. Quello da lontano. Movida Armag, Italia, mai sentito questo paese, Movida. Bubu. Mi pare mezzo punti due, amico. Guarda, sui bene non sgarri, Perché? Perché non è come subito, no? Cioè, su eBay puttanata non ne puoi fare. Sei più tutelato? Assolutamente sì. Tutti, cioè, sia chi vende che chi compra, insomma, è più seria la questione. Io ho preso un sacco di roba, soprattutto roba elettronica, qualche ricambio per la moto, ma piccole cose. Però ho comprato la videocamera che c'ho ancora qualche anno fa, l'ho presa in Austria, 3.000 euro, ho preso il cavalletto, 900 euro, carica batterie dagli Stati Uniti, insomma, la telecamera dall'Austria, il cavalletto dall'Inghilterra, poi ho preso altre cose, poi vabbè, a parte i disguidi, cazzo, quello del cavalletto praticamente mi ha messo, invece di mettere Gianni Sanna, ha messo Gianni Lubroffetta, cazzo, praticamente tre corrieri non riuscivano a trovarmi, cazzo. Si è incasinato da solo, eh? Sì, perché poi, cioè, a me la roba serviva, era già passato un po' di tempo, abbiamo iniziato a scambiarci le mail, guardi, io la roba l'ho spedita, mi fa vedere praticamente, prima ha spedito con UPS, no, prima ha spedito con... prima ha spedito con UPS, praticamente è tornato indietro. Nel frattempo lui mi aveva riaccreditato i soldi sulla postpay, poi praticamente da UPS ha cambiato DHL, anche lì praticamente il pacco non arrivava, dopodiché gli ho detto, cazzo, ma siamo sicuri che lo stai, che le coordinate dell'indirizzo e tutte le cose sono giuste? Sì. Mi manda le fotografie degli altri due pacchi, praticamente c'era l'errore, no? Alla fine ho detto, guarda che, cioè, gli ho rimandato, questo è il mio nome e cognome. Praticamente sia sul collo di UPS che quello di HL c'era Gianni Lubrofetta, no? Con l'indirizzo, così ci aveva detto postare tutte cose. Infatti gli ho detto, guarda che stai sbagliando, tutte cose. Allora ha mandato con FedEx, me l'ha mandato giusto. Nel frattempo, prima che Paco arrivasse, mi raccomando, non fare, mi auguro che sei una persona corretta, che mi paghi il cavalletto quando ti arriva, tutte cose, non fare, insomma, ho detto guarda, non ci sono problemi, appena mi arriva il cavalletto ti riaccredito i soldi. E l'hanno a confine? Sì, praticamente poi io praticamente ho fatto la segnalazione all'inizio, poi chiaramente c'è la parte legale di eBay che fa da intermediario, no? Cioè, dice praticamente c'è una segnalazione, per cui praticamente il venditore è cortesemente invitato a mettersi in contatto con l'acquirente per cercare praticamente di risolvere la cosa, insomma, in maniera tra virgolette amichevole, diciamo, dai. Sì, poi alla fine il cavalletto è arrivato, gli ho mandato la mail, gli ho ricaricato i soldi e niente, siamo salutati, grazie mille alla cortesia, dell'onestà, della correttezza da entrambe le parti, vale? Baci abbracci e niente. Sì. Con la PayPal c'è anche, o forse è anche assicurato, no? Sì, vabbè, ti ripeto, è tutto molto, cioè praticamente ogni segnalazione e ogni feedback negativo pesano nei confronti sia come acquirente che come venditore, praticamente in ogni account praticamente ci sono i feedback, no? Anche un paio di feedback, due o tre feedback negativi possono influenzare parecchio. Ti rovinano la media. E comunque, quelli bravi, basta che siano attorno al 100%, dai, 99, 90, insomma, attorno al 100%. Sì, guarda, io ho preso, ti ripeto, una volta, non mi ricordo dove, era un componente roba di elettronica, ma sto parlando di 10 euro di roba. Praticamente, roba piccola, componenti elettronici. Praticamente questa busta non mi arrivava, ho chiesto spiegazioni a questi qua, mi hanno detto che praticamente loro non erano responsabili, perché a questo punto poteva essere praticamente incuria da parte delle poste italiane, insomma tutta una serie di cose, alla fine ho fatto la segnalazione, mi sono puntato, niente, io comunque praticamente la merce l'ho pagata, cioè con tutte le ricevute d'acquisto, insomma tutte cose, alla fine mi sono fatto rimandare la roba, chi è intelligente per 10 euro di roba, cazzo, ti fai vedere così, cazzo, pidocchio. Sì, beh, se poi ti interessa vendere ancora è meglio che ti comporti bene, no? Vuole proprio così. Sì, poi chiaramente ti ripeto, sì, è molto più serio e professionale, insomma, sia da entrambe le parti, capito? Cioè, se poi magari come venditore subisci qualche ingiustizia, insomma, qualche comportamento scorretto, è chiaro che giustamente, insomma, è come se io prendessi qualcosa e non la pagassi, cioè nel senso mi arriva la roba e non capito, ecco perché poi, insomma, si paga tramite PayPal oppure con PostPay, insomma. Però io ho preso un sacco di roba, ti ripeto, anche di un certo valore, e mi sono trovato sempre benissimo. Controlla sempre la temperatura dell'apparato dietro, se dove sono attaccati i finali, se non stia scaldando. No, è temperatura, è freddo. Insomma, temperatura ambiente, dai, è qua a casa vicino al monitor, quindi no, è temperatura sua ottimale. Perfetto, no, visto che non sai come è calata l'antenna, ma visto che la stava usando un altro, bene o male, anche se cambia da un posto all'altro, cambia come ha messo il capo, il tipo del capo, un po' può variare, dai, però se non scalda va, stai andando bene, dai. Guarda, anche vabbè, lo strumentino quando sono in TX scende proprio a fondo scala, quindi anche quello è un buon indicatore, insomma, che tutto sta andando bene, dai. Questo adesso io, da quando l'ho aumentato un po' il watt, proprio sbatte a fondo scala, manetta. Cazzo, roba di QRM, vea, va. Anche quello c'è da dire, che più se migliori l'antenna e più mandetta prendi. Sta passando il Sirio allora? Forse sì. Quindi ormai sai gli orari, dai. Praticamente conosci tutti gli orari quando passa il Sirio, segnati lì. No, più che altro sentono le vibrazioni anche. Addirittura? Sì, sì. Così che basta, vedi? Vai? No, così, senza, cioè, con l'accordatore attaccato, scende a 9.30 la lancetta. Se invece lo stacco, così attaccato, così aumenta a fondo scala. Se invece il segnale non cambia. Prova di nuovo. Allora, così, senza l'accordatore. Così è con l'accordatore. Oh, qua a mio strumento non vedo differenze. No, infatti è una questione di apparato e basta. Vediamo un po', non è accordato. A 1. Stavo leggendo, praticamente si deve fare una comparazione di massima, vabbè, per chi ha i 40 canali, praticamente di fare una comparazione, insomma, centro frequenza, di controllare prima sull'1 e poi sul 20, mi confermi? Sì, se tu hai 40 canali devi accordare l'antenna al centro banda, quindi ti metti sul 20 e l'accordi sul 20 e poi ti sposti agli estremi. Adesso non mi ricordo che però c'è una regola, cioè tipo se le stazionarie aumentano sui canali alti, vuol dire, non so, che l'antenna vuole accorciata, per esempio. Adesso però non mi ricordo di preciso, dovrei devo ripassare qualcosa. Adesso me la cerco. Adesso praticamente il QRM è fisso, ragazzi. E a quanto ce l'hai? A 5. Non è roba di Sirio questa, no. Cos'altro c'hai lì in zona? Boh, non cioè di così. È oggi che saliva e scendeva tutta questa roba qua. Magari l'antenna della macchina è più schermata, boh. È un cavo buono, ci vuole, è un cavo ben isolato, in modo che non abbia dispersioni e che non prenda neanche disturbi, dai. Magari adesso quello, se c'è il pullman dell'ARS qua sotto a casa, aspetta un attimo. Eccomi. Guarda il segnale adesso già. Cosa hai fatto? Con l'amplificatore è acceso. La radio sta saturando, Fra. Molto? Come satura? Non è pulita come prima. Vedi un po' così ho diminuito un po'. Così va già meglio. E invece il segnale? Vai. Adesso sei a fondo, dai, c'è l'ultima tacchetta. Forse è saturo, perché questo esce con troppi watt, esce l'apparecchio, capito? Quindi sto pilotando praticamente con troppi watt. Ho capito, quindi satura. Così invece, così è 1. Vediamo un po', forniamo un po'. Così è al primo livello. Qui sono un centinaio, no? Già è forte. E così la radio invece è chiara? K. Così è il primo, diciamo, il numero 1, poi c'hai 6 livelli di potenza, dai. Allora, proviamo, attacchiamo tutto. qua. Poco fa ho sentito qualcuno, sembrava che fosse un FM o addirittura in banda laterale sotto. No, io lo stavo provando in banda laterale, lineare. Ah, ecco. Sente un casino? Kappa, kappa. Anche quello mi ricordo, prima per disturbarti andavano in banda laterale perché i watt aumentano. Certo, certo. Per darti più fastidio, ovvia. Per essere più rompicoglioni, ragazzi. C'è gente che non faceva altro, Però ecco che ha paletto quel tipo che parlava lì di fronte al Tanit adesso. Dove c'è Mariani? Kappa, sì, già mi ricordo. A quello lo facevano a pezzi, poi lui si incazzava alla fine. Veniva, io non so se fosse la madre o la sorella, allora gli toglieva tutto per un breve periodo e poi dopo un po' ritornava all'assalto. Però ci va bene, era un romanzo da uno, lo sentivi dappertutto. Sì, beh, come accendeva iniziavano a mettere importanti insulti, insomma, di tutto, cioè poveraccio. Beh, allora, era un tipo particolare. Ogni tanto lo vedo camminando a piedi lì, vada verso il centro di Sassari, cammina a piedi, passa sotto il ponte della ferrovia lì. Io sono una vita che non lo vedo. Lo riconoscevi? Sì. Quando lo vedo già lo riconosco, dai. Non lo vedo spesso e volentieri, però intanto lo becco camminando a piedi, rientrando o andando. Sono da parecchio adesso, sono passati un sacco d'anni. Poi c'era Isidoro la campanetta. Al centro storico prima anni fa già ce n'erano diversi che avevano segnali forti. E tu prima come uscivi? Io allora ho avuto prima un portatile Inuit comprato da Cineradio, 6 canali 5 watt con l'antenna stilo cazzo bocca longa, lunghissima, aveva lo smitter in mezzo, altoparlante sopra e microfono sotto, squadrato, cazzo pesava non so quanto, ci andavano le batterie stilo, ce ne andavano tipo una dozzina o 15, poi un irradio, un 23 canali, un baracchino da veicolare con un'antenna tipo Grand Play, e poi ne ho staccato tutto. L'Inuit l'ho avuto anch'io, però era un tre canali, poi dei quali solo uno era quartato, quindi avevo solo un canale, e poi io mi avevo acquistato i quarti e l'avevo... era una coppia, quindi ho preso i quarti anche per l'altra coppia, per l'altro portatile, e avevo aggiunto, mi sembra, il canale 11 e il 23 avevo aggiunto. Io avevo messo il 15, il 7, il 23 mi pare, poi non mi ricordo, sì, quando l'ho comprato anche il mio aveva solo un canale quarzato, aveva 6 canali di cui 5 vuoti e uno quarzato. E invece mi aveva solo uno su tre. Poi gli avevo fatto un foro, l'avevo alimentato con l'alimentatore, lo alimentavo esterno e dove c'era, diciamo, la scatola delle batterie, lì gli ho messo la presa, l'antenna esterna, no? Quindi collegavo direttamente il PL, gli ho messo una presa da pannello. Ho capito. Vabbè, andava? Con l'antenna esterna è un altro mondo, con l'antenna sua qualche chilometro riuscivi a fare e basta. Io alcune volte mi è capitato, ci parlavo dentro casa, qualcuno già lo sentivo, dai. Io questo antennone era un'antenna telescopica enorme, era poco comoda, quello è stato il mio primo. Poi ho avuto un patch 8030, 8030, quello ci va bene, una bella modulazione aveva, mi davano sempre degli ottimi controlli. Poi ho avuto anche io un irradio omologato, quello l'ho dovuto prendere per la concessione, ci voleva un apparato omologato. Quello era un irradio MC700S ed era un 34 canali, aveva anche canali sotto, aveva, no? 4-5 canali bassi aveva. Ho capito. Aveva quello che avevo io, aveva il pomellino praticamente con i numeretti tutti intorno, l'oblò piccolino trasparente dove c'era la luce dietro, così riuscivi a sgamare il canale. Sì, sì, quei imprenditori che ho avuto erano quelli anche i miei. Poi mi avevano regalato un paio di portatili, un Tokai, un paio si era proprio un mattone, anche come peso, non mi ricordo che fine abbia fatto, e un bel Lafayette, un Dina con 40 canali, quello era bellissimo, anche quello fatto riparare me l'hanno rovinato, anche quello l'ho perso di vista. Ma tutta questa roba non ce l'hai più? No, no, quella roba lì non ce l'ho più. Ok, ok. Quindi tutta sparita, dai. Non ricordo se quel portatile poi è rimasto addirittura dove lo stavo riparando, poi quel negozietto ha chiuso, non so più dove siamo andati a finire, era in viale San Francesco, mi sembra, salendo lì sulla destra. Già ti ho capito, sì sì, ho capito più o meno dove era quel laboratorio. E quindi l'ho perso di vista. Il Tokai non so se l'avevo regalato a qualcuno, ho prestato a qualcuno, poi mi è uscito di testa, non so più che fine abbia fatto, dai. Poi il resto, quelli che avevo negli anni 80, 78, sono questi qua, questi che ho adesso. Ho capito. Cazzo, il suo GRM è proprio piazzato di brutto, adesso non so a cosa sia dovuto. Comunque è un bel altro, è anche abbastanza fastidioso, ragazzi. Quando parlo me lo porto appresso? No, negativo. Beh, almeno quello, dai. L'importante è che ci sia il cliente quando schiacci la portante, quando senti la portante, dai. A foglia. È a momenti proprio si abbassa, a momenti altissimo. E magari sono segnali che arrivano chissà da dove, Più riceve l'antenna e più... Ti manca la Mantova 1, un'ottima antenna, però riceve anche molto QRM. Certo, aumentando la sensibilità, di conseguenza aumenta anche il rumore. Poi questa radio è proprio semplice, non ha niente per attenuare, a parte lo squelch, vabbè. Non ha nessun filtro, dai. No, questa invece, questa autocostruita, sembrerebbe abbastanza sorda, refrattaria a certe cose, certe scariche. A parte, vabbè, la pompa di calore che ce l'ho attaccata. Ma adesso stai usando il valvolare? No, sempre quello... Quello che c'è in alto, dai. Ho capito. Adesso mi ho messo lo squelch perché mi stava ammazzando. Il problema è solo se entra qualcuno con un segnale basso non lo senti. Certo. Rimane in fondo. Bene. Se non passa quel limite lì. Qui ce ne sono tanti, sempre per colpa mia, che arrivano bassi, perché ripeto, purtroppo l'antenna è bassa. Adesso vediamo cosa riesce a combinare Daniele, se si fa la Game Master così con la canna. Oh, se trovi un punto dove appenderla, quell'antenna lì, la puoi anche solo appendere, cioè tipo metti una staffa che va verso l'esterno della facciata e poi la fai scendere in verticale, e funziona lo stesso. Ho capito. Ho capito. Adesso sono curioso, vabbè, adesso visto che è la boomerang, insomma, vediamo un po' stasera gli altri cosa mi dicono, quelli più lontani. Poi mi stava dicendo Daniele, appena lui si sistema, dice che mi vuol far provare la Ringo, vediamo un po'. La Ringo è quella che sta usando lui adesso? Sì, sì. Ed è una 5 ottavi, è alta? Sì, credo di sì. Ma provare non costa niente, comunque in genere più è lunga l'antenna e meglio è. L'antennino di macchina era 1,75, adesso ho messo la boomerang che sono 3 metri, quindi figurati tu, siamo quasi il doppio. Ma è 3 metri di radiale centrale? Sì, sì, dovrebbe essere una mezz'onda se non sbaglio. La mia era 2,75, mi ricordo, come misura. Sì, dovrebbe essere mezz'onda. Aspetta che apro il documento che l'ho salvato. Allora, vediamo un po'. Allora, sì, 3 metri. Insomma, è migliorato, quasi il doppio, dai. Avanti chi fischia? Chi c'è sotto? Avanti chi fischia? Boh, Fra, tu l'hai sentito? No, negativo, questo non lo senti tu, figurati io qua. Boh, ho sentito qualcuno fischiando. Boh, avanti chi fischia? Boh, no. Vabbè, comunque, siamo qua. Aspetta, però vorrei sui canali alti se c'è propagazione. Thank you. tutto, buonasera, vai, avanti. Franco Azzurro. Ciao Franco, Gianni, Gianni da Centro Storico, tutto bene? Che fa? Sì, da casa o in macchina? No, no, sempre qua. Segnale 7, radio 5, buono. Ho piazzato la boomerang stamattina. Ah, sul tetto? KK, adesso devo, vabbè, la devo accordare bene. Mi sto aspettando lo strumentino. Hai migliorato, molto, molto, molto. Da 3, quasi 4 a 7. Molto, molto. Caspita. Considerato che l'ho, vabbè, l'ho insomma, ho messo il radialino a, come danno dalla casa, a 45 gradi, insomma, senza fare varie regolazioni, comunque, dai, abbiamo già fatto un passo avanti. Cappa ce l'hai fatto, abbastanza bene, con una bura, se ci metti un'antenna lì, caspita, metti una manta oppure una ciclotabile lì, mi spara. Cappa, sono rientrato, eh. Sì, Fra, sto parlando con Franco di Sorso, qualcuno Fra ti ha sovramodulato. Me lo immagino, è vicino a te. Ciao Franco, buonasera. Oh, chiedo scusa Fra. Ben entrato anche a te. Così almeno può fare i controlli con uno a distanza, dai. Avanti Franco. Capo, le ho già detto. Segnale di 7 mi sta arrivando. Da 3, quasi 4 che mi arrivava, a 7 ha fatto un passo avanti. Sì, no, anch'io gliel'ho detto, anch'io gli ho detto che è migliorato, già a breve distanza, figuriamoci, ho detto, bisogna provare con qualcuno lontano. Infatti, a distanza è molto meglio. No, va bene, quella boomerang va benissimo. Sempre, infatti stavo dicendo, se ci metto una ciclotabile sopra, guai. Ma poi c'è una bella, non so se hai visto la foto, ho visto la foto come la piazzata, ha una bella posizione, è aperta proprio. Capa, meglio così. No, adesso sì, adesso lì capita, adesso arriva più bene di come si chiama, adesso mi sono dimenticato l'altro. Di Daniele dici? Capa, adesso arrivi meglio di Daniele. Hai tu? La posizione, dai, la posizione, la mia è abbastanza, dai, è buona. Capa, si vede. No, guarda, con un antennino di macchina, a contarti qua era parecchio, Non è, a volte si sollevava il QRM e non ti sentivo, però quando non c'era QRM ti sentivo chiaro, anche basso, però chiaro. Vabbè, qua io adesso come ho messo l'antenna, c'è un QRM che va e che viene. Tu sei Santiago 9, quasi 9:10, radio 4, c'è un po' di disturbo, ma senza aiutino sei. Ma sto usando solo la radio. Eia, va bene, dai, avanti Fra. Tu Santiago 9:10, io lo sento, non dico a malapena, ma un segnale di 3 di modulazione. Figurati quanto sei messo bene come posizione. Sì, qua arriva 9:10, dai, ogni tanto ci arriva 9:10, considerando che arriva liscio, poi vabbè, adesso ultimamente si è alzato un bel po' di rumore, comunque già l'ascolto, dai. Ah, ecco una cosa Fra, ho cambiato il microfono, ho messo un ZG-M95 amplificato, quindi anche la radio dovrebbe essere migliorata un po', vero? Capo, sì. Ma quello col bip? Sì, quello grigio con il tastino giallo. Sì, lo conosco. Sì, è buono come il microfono. Bene, dai. Quindi un microfono, la boomerang, dai, piano piano stiamo andando avanti, dai. Capo, no, già va bene. Opa, sto uscendo meno di 2 watt, ancora è freddo, sta scaldando piano. No, ma non è colpa tua, è proprio la mia antenna che è proprio a livello di terreno. Ah, capo, anche tu sei con l'antenna in basso. Praticamente l'ho messa davanti alla finestra e rimane sotto il cornicione, attaccata al bottone al palazzo, dai. Sono coperto specialmente verso la parte tua. Allora è per quello lì. No, io ho acceso adesso questa radio, sai che il capo devi lasciarlo scaldare un po' per darti il watt. Capo, lo so, piano piano già sale il capo. Infatti, infatti sto usando quello per non accendere l'altro, il linco, quello è diretto. Non ci vuole fretta con questi apparati? Ah no, no, già non ne ho fretta. No, piano piano già sta salendo. Vai a vedere se tanto attacco l'altro, mi prendi già. Ehi, sì sì, infatti ti ho chiesto poco fa se eri liscio, perché vabbè, a volte ti sentivo chiaramente quando l'apparato era, insomma, già acceso da un po', si sente la differenza, dai, comunque, piano piano, diesel, vecchio diesel alla vecchia maniera, con la pompa iniettore, dai. Capo, vedi a vedere se mi ascolti meglio questo e dell'altro. Da me è peggiorato. Questo è il precedente link. Vabbè, questo, come mai è peggiorato? Ti è in radio? No, no, anche il segnale adesso è 1, ha sceso 1 e la radio è appena percepibile, dai, segnale, cioè una radio di 2. Allora, vabbè, questo è appena fatto ancora. Aspetta a vedere. Da te com'è andata? Hai diminuito qualcosa già? Sì, sì, è 9 radio 3. Capo, sì, sì, è diverso quello là. Il linco sta meno watt anche. Cioè, poi sto usando un microfono uguale a questo, MC60, però la radio è da meno watt. No, no, questa va meglio, anche la radio è più corposa. Anche se il segnale non è altissimo, però ti sento di radio bene. Capo, vabbè, tutta un'altra storia questa qua. Va bene. E tu, Fra, come mai l'antenna giù? Perché su c'è il tetto. Viene male a salirci. Ah, aspetta. Salire sul tetto, secondo com'è, è un casotto. Non sono tutti che hanno la possibilità di installarla. No, poi non c'è accesso, bisogna, come si dice, togliere il filiferro dalle tegole, aprire il tetto e uscire tra un listone e l'altro, no? È un casino. Dall'esterno si può salire con le scale? Io sono, diciamo, al primo piano. Su c'è un'altra signora sopra di me. E che scala ci vorrebbe? C'è una scala enorme. E poi dovete camminare sul tetto. E allora no, pensavo che era solo casa tua e tutta quanta. No, noi siamo in 6, siamo. E allora è diversa la situazione, non è come essere da soli. No, no, prima quando abitavo in campagna facevo quello che volevo, qua in città ti devi adeguare, comunque. Non dico che sento tutti, ma quasi tutti, dai. Vabbè. Ci siamo passati tutti, a volte io adesso faccio tutto dal terrazzo e c'ho tutto a portata di mano, basta mollare un bollone della staffa, me ne scende sotto i piedi l'antenna e poi basta tirare sul palo, fa tutto in automatico. Un'altra cuba, Ma anche Gianni mi sembra che si è messo bene, così è già, è accessibile la tua antenna. Cazzo, ti sto dicendo che come l'ho messa senza accordare niente, cioè sto sentendo un sacco di correme, adesso appena Claudio mi passa lo strumentino la accordiamo bene e vediamo un po' cosa succede. Ragazzi, mi date 5 minuti e devo fare una cosa. Capo, fai tranquillo, avanti Fra. E tu che zona sei? Capo, sono la zona più alta, vicino a Sennori. È strano, che no? Non dico che non arrivi benissimo, però. E io come ti arrivo lì? Sempre basso? No, c'è un segnale di 8, la radio 5, buona. Anch'io ho qualche cosa sotto, eh. Capo. Sì, però va bene, dai, va benissimo. Poco fa è un po' più basso. Si vede che hai attaccato qualcosa. Aspetta che accordo un po'. Così è normale, dai. Così sì, dai. Sì, di segnale, però la radio è sempre buona. sì, questo sto usando un microfono, il microfono è buono, è un buon microfono. Che microfono stai usando? Questo è un vecchio Shure degli anni 70, 80, 70 credo che sia, Shure è un buon microfono, altro che. Vecchietto, ma si fa sentire come si dice. Già, lo credo. Tra lo Shure, il Turner e altri che ce ne sono belli, quelli americani, sono buoni microfoni. Vecchi, ma è come diciamo noi, gallina vecchia fa buon brodo. No, no, roba americana, roba seria. Ho avuto anche, ne parlavo con Gianni prima, il Turner MP3 da Palmo. E quello l'avevo prestato, mi aveva trovato di cambio la connessione, me l'ha bruciato, non ha più funzionato quel microfono, non so più neanche che fine abbia fatto. Allora l'MP3 da Palmo, il Turner. Ma quello grigio? Era tutto nero, col tasto strano sul lato, no? E poi sopra c'era il cursore destra e sinistra per l'amplificazione. Ah, che ha fatto? Aspetta. Magari gli ha fatto qualche manovra brusca. No, io ho il Turner più 3 qua, però ha smesso, non ne vuole più sentire, non ne vuole. E ho provato a controllarlo e tutto, ma non sono riuscito a farlo funzionare. Gli ho cambiato tutti i fili della batteria, pensavo che era quello, invece ho messo tutto nuovo, e invece niente, non ne vuole sentire. Ogni tanto lo prendo in mano a vedere se riesco, mi sto controllando filo per filo. Cosa potrebbe essere all'interno, che componenti c'ha? Che componenti c'ha? C'ha gli stessi componenti di un, più o meno di un, MP5, una cosa del genere, solo che c'ha un casino di fili dentro, un casino, e li sto controllando uno a uno con test per vedere se sono interrotti. Non lo so, ma esce male o non esce nulla? No, non esce nulla direttamente. E la capsula è buona? Sì, la capsula è buona perché l'ho tolta e l'ho messa all'MV4, l'ho messa e esce benissimo. Non lo so, poi cosa c'ha dentro? Condensatore, resistenze, qualcosa del genere? Sì, ma sono tutte buone, sembrano buone quelle. I condensatori, si vede il condensatore quando si scoppia, che si fa rotondo. Ma che diodo, niente, boh. Non lo so. Adesso se ecco qualcuno che li aggiusta, ma se no la si fa al vento. È un peccato, anche quello è un bel microfono. Sì, e usciva bene anche. Usciva benissimo, è tutto originale. Sì, anch'io questo non l'ho mai toccato, anzi a dire la verità, l'avevo prestato e mi avevano rotto la, come si chiama, quelle molle che c'ha quando tu schiacci la portante, no? Ha delle linguette tipo le puntine platinate, quelle puntine della macchina, quando tu schiacci si attaccano le puntine, quando molli si staccano. Si era rotta una lamella di quelle lì e l'avevo ricostruita, dai. Infatti stavo guardando anche io quelle lì a vedere se erano, c'era qualcuna rotta, invece no, invece sono tutte a posto, sono. Anche quello che c'ha le lamelle? Sì, le lamelle, è uguale alle, sono uguali a quelle che c'ha l'MP4, l'MP5, tutti uguali sono, così è il Turner più 3. No, io conosco solo questo, poi vabbè, ho conosciuto anche l'MP5, ma non l'ho mai aperto, l'abbiamo venduto perché non usciva bene come questo, troppi alti, troppi medio-alti dalle frequenze. Sì, infatti io, no, l'MP5 non ce l'ho più, l'avevo venduto, cioè, mi è rimasto l'MP4 e il Turner me l'ha rimasto, poi a parte il Traversa. Il Traversa è 2,60. E l'antenna come si è messo adesso? E l'antenna c'è la Mantova Turbo. Ah, qui c'è una buona antenna, qui. Aspetta. Sì, gli avevo messo la Mantova Turbo. All'inizio avevo una Mantova 5, che era tutta quanta, l'avevo tutta recuperata, l'avevo, era vecchia. Poi mi sono stancato perché c'avevo stazionaria, non riuscivo a togliermi. Allora mi sono stancato, ho entrato su internet, mi ho ordinato la Mantova che mi ho messo questa qua, però sembra abbastanza buona. Eh sì, ma ripeto, io perché non ho una buona ricezione qua. Poi quella che sto usando io non ha neanche radiali, già sto usando quella autocostruita, una Game Master, dai, già lo sai. Dovrei averla una mantova giù in campagna, l'avevo smontata, gli mancava solo, mi sembra, quel ragnetto che c'era sulla punta per le scariche, per le cariche elettrostatiche, dai. Sì, vabbè, alla fine è pratica quella lì. Sì, questa e poi non dà problemi, vedi, non dà stazione aria, corra bene in tutti i canali. Certo, no, non so se la resa è migliore o simile a una mantova, però sarebbe bello confrontarle, dai, a parità di messe sul tetto, messe a fianco, e provarle. Sì, se le metti a fianco lo capisci subito se è allo stesso livello o no. Certo che sarebbe bello mettere le due antenne a fianco e provarle, avere le capacità, anche se una è autocostruita e l'altra no. Sì, questa l'ho costruita dentro casa e poi l'ho appiccicata, le ho dato una taratina così, poi... Ma comunque, grosso modo, c'è cioè 1-1-1-1-2, le gliele abbasso poi con l'accordatore, quindi va benissimo come antenna. Pensa che è attaccata già a un palmo dalla facciata, quindi cioè, fa miracoli questa antenna. Non disturba perché c'è gente che c'ha il televisore a fianco, non si è mai lamentata. Infatti. Però 1-1-1-2 non è solo stazionario, è passabile quello lì. C'è l'accordatore, riesce a mandarli a zero. Sì, è proprio per pignoleria, eh. Ehi, capo, io per dire, adesso che sto schiacciando, sto parlando, l'ago delle stazionarie non si muove per niente, si muove solo la potenza e basta. Hai l'accordatore, sì, quello automatico c'hai. No, c'ho CN2 della Daiwa, quello a incrociati, un Roosevelt normale. È bello quello, fa molta scena, fa, e poi anche un bel apparecchio. No, io ho un vecchio, come si chiama, che guardo, no, è un PM1000 mio. Ce l'ho qua il PM1000, ma è della città G quello lì, non è tanto... Non TM1000, la KP1000 ce l'ho io, a proposito, fa anche l'accordatore, non TM1000, TM1000 è diverso, è quasi uguale, dai, come procedura. Non è uguale, è roba commerciale, niente di buono, di buona fattura, però funziona, perché poi ho lo strumento anche sull'apparato e vedo che coincidono, Orecchie, buon controllo. Avanti. Buonasera Marino, un controllo per cortesia del segnale, grazie. Ciao Marino, per qui arrivi un segnale di 6 con picchi positivi. La radio non mi piace però. Perché dove sei, scusa? Io sono qui a Sacro Cuore. Santiago 6 mi hai detto. No. Così basta, strano. Ok, Franco, dammi un controllo, Franco, grazie. Ciao Marino, sì, 9-5, però la radio è satura. Ok, ci ha abbassato qualcosa. Benissimo, grazie, continuo, mi sta un po' qualcosa. Ok, grazie Franco, grazie anche l'amico e continuate, quelli che ti ascolta. Ciao Marino, sono rientrato, sono Gianni. Ciao Marino, qua sei in Santiago 910, la radio è un po' così. Ok, grazie Gianni, ciao. Ciao Marino, l'altro è Franco da Sassari, avanti e prossimo. Capo, no, l'ho riconosciuto dalla voce più che altro, ogni tanto lo sento anche nel PMR. Avanti Gianni, sei rientrato? Eia, se Marino è ancora in ascolto, ho piazzato la boomerang stamattina Marino, quindi se riesci a darmi un controllino anche tu, sarebbe cosa gradita. Stavamo Santiago 9, che lo stava ho già, Santiago 9, la radio 5 perfetta, Tappa, grazie mille. Ok, ciao. Bene, dai, su progresso, avanti Fra. Ascolta, hai cambiato moto da Marino come segnale? Mi ha detto che sono 9 adesso, quindi adesso mi ricordo che ero più basso prima. Ah, non ti ricordi. Avanti Franco. Capo, dai, io riprendo e vi lascio, che devo togliere a Sassari. E ce ne ascoltiamo magari più tardi. Ciao Franco, ciao Gianni, non proseguo, dai, già ci sentiremo più tardi, se coincide. Avanti Franco, per girare. Ma è capa, può essere greca allora qui a Sassari e ci si sente alle prossime, mi ha fatto piacere ascoltarti, avanti Gianni. Eia, bene da Fra, dai, ci si aggiorna appena possibile, appena sei, insomma, appena puoi accendere la radio. Niente, dai, quindi piano piano i sondaggi sono positivi e tutto ciò è molto molto molto buono. Ma sì, dai, infatti non potevi fare altro che migliorare. Sì, sì, a parte il QRM che mi attende, però va bene, dai, magari più tardi si abbassa, forse anche per via della giornata bella che c'è propagazione, quindi si porta via anche un sacco di rumore. Non so, ci metti due cavi e lasci le due antenne, così stacchi una e stacchi l'altra. Troppa grazia, come si dice. Quanti metri ne hai di cavo, mi hai detto? Non lo so quanto me ne ha passato Claudio l'altro giorno, non so quanti metri sono. Ma adesso no, dico, dall'antenna all'apparato, quanti metri ne hai messo adesso? È proprio quello che ti sto dicendo, non lo so, il cavo me l'ha passato Franco. Claudio voglio dire. Che cavo hai messo? È RG58, quello buono. Ed è intero, vero? Senza giunture? Sì, sì, senza giunture. Ah, meno male, quindi hai fatto un altro miglioramento allora. Sì, sì, PL sono nuovi e niente, sì, è tutto a posto. Bene, bene, aspetta, mi è arrivato un messaggio. Falso allarme, dai, sembrava un'offerta buona, invece va bene se hai un figlio piccolo, la Windy mi voleva dare un telefono col controllo family, però deve avere meno di 14 anni, non è roba, non è il mio caso, va. Aspetta, Fra, voglio fare un esperimento, adesso voglio attaccare l'antenna veicolare, però vabbè, chiaramente qua la sto attaccando dentro casa, giusto per fare praticamente una comparazione, ok? Ok. Franco, ci sei? Sì, ti sento. Secondo me ti sento anche se metti il cacciavite attaccato all'apparato. Guarda, praticamente ho attaccato l'antenna veicolare che praticamente è poggiata sulla scrivania dove c'è l'apparato, con un metro e mezzo di cavo. Però non fare passaggi lunghi perché, ripeto, non sai se c'è stazionari e non so caricare i finali, dai. Com'è il referto? Com'è il segnale? Il segnale adesso è 3,5, quasi 4, e la radio è bassa, è una radio di 3. Vabbè, era giusto per farmi questa soddisfazione, dai. Invece io quando sono sceso, molto. 9,5. Lo stesso, vabbè, dai. Va bene. Quindi dai, anche se dentro casa c'è una buona ricezione. Sì, sì, no. Se mi senti così bene, caspita. Eia, aspetta che spengo e riattacco l'altra. Eia. Eccomi. È un altro mondo, eh. anche quel RM, vai, con l'antenino si è abbassato. Però ho provato a girare un po' di canali e praticamente il rumore lo sento su tutti. Anche con quell'antenna? Sì, sì, con la boomerang. Cioè ho provato a girare sugli altri canali e sento il rumore dappertutto. No, quando hai attaccato l'antenna di barra mobile è calato il disturbo? Sì, sì, il segnale, il QRM è sceso chiaramente. Qui adesso la scarica l'ho sentita anch'io, una scarica. Qua è Santiago 5 quasi. No, qua è... ripeto, questo smitter non è che sale così in fretta, Quindi è probabile che ci sia un QRM di 3, di 2, 3. Io questo smitter non lo rilevo nemmeno. No, io l'ho sistemato, lo smitter, l'ho regolato, che era tutto fuori taratura. Adesso il QRM è qua da 5. E un altro addirittura che no, finché non scalda lo smitter sembra impattato, invece a volte rimane, sale il colpo e rimane fermo, si blocca, come che ci sia un attrito. Poi inizia a scaldare e diventa più fluido l'ago, sembra idraulico. È pigro, dai. Non lo so, l'hai preso, anche quello l'avevo un po' tarato, ho fatto danno qualche cosa, comunque non sale più bene a freddo. Bisogna fare un po' di movimento, dai. No, poi deve scaldare l'apparecchio, dopo una mezz'oretta allora diventa fluido, no? A volte tu molli la portante, invece di scendere a zero, si ferma, come che c'è un attrito, si ferma, non so, a 2, a 3. Ho capito. scherzi, crocro. Non una gara, non una gara, dai. Adesso non mi ricordo se, perché uno aveva preso acqua una volta, non mi ricordo se questo o se l'altro, il gemello, va. Ho capito, e boh, chissà cosa può essere, umidità o roba del genere. Adesso sembra di sentire un pullman col motore acceso sotto casa. Parte adesso alle 4, boh. E quelli mantengono l'orario dei treni, mantengono. C'è sostitutivo. Poi tu lo saprai meglio di me. No, è così. Più o meno rispettano quegli orari lì. Sì, ci sono i mezzi nuovi adesso. Sai che a volte ne partono più di uno, perché non è come il treno, là. Il treno c'ha più posti. Qui mi sa che siamo 53, 54 seduti. Il resto bisogna fare un pullman appresso, là. Infatti è 2/3, dipende dall'orario. Lui, mi sembra che i mezzi, quelli che erano di queste imprese esterne, loro caricano solo gente seduta, solo gente sul sedile. Invece noi carichiamo anche gente in piedi. Ho capito. Forse per via della differenza di tipologia di mezzo. Ma non lo so perché, il privato forse rispetta più le leggi. Magari questione di omologazione, magari proprio per il tipo di mezzo di trasporto, che insomma la differenza di categorie, magari, no? Cioè, rispetto a un pullman gran turismo, rispetto a un trasporto pubblico tradizionale. Non lo so, anche per sicurezza è meglio che uno sia seduto, in caso di frenata, di urto, se sei in piedi, chissà dove vai a finire. È come i tram, no? Cioè, quelli della TP, cioè ci sono posti a sedere e poi quel mezzo è omologato anche per un tot di posti in piedi. Ah, fa la stessa cosa, dai. E quindi nel pullman gran turismo in piedi non ci puoi stare, perché lo spazio fisico è quello che è tutto occupato dai posti a sedere, quindi secondo me è una questione proprio di omologazione. Sì, poi sono fiscalissimi, nessuno in piedi. Io anni fa ho avuto la fortuna di provarlo, un pullman del genere, vabbè, in una strada privata, ed è una goduria, cazzo. Io qualcuno l'ho provato, però dentro in deposito, anche Alghero dove c'è spazio. Già sono cose belle, dai. A volte davano fastidio, quindi li spostavo. Poi vabbè, adesso sono abbastanza, insomma, sono abbastanza aggiornati, sono moderni, quindi non sono i vecchi, come si dice, i vecchi carrozzi che c'erano prima. Adesso molti sono meglio della macchina, cazzo. Come il camion, oltretutto, anche il camion di oggi, il TR, sono meglio della macchina, poi c'è la guida alta. Cambio automatico, fra la mano c'è una leva piccolina di un paio di centimetri. Ci vuole che devi fare l'occhio, quelle manovre, devi sapere che scoda, se no rischi di buttare giù qualche macchina in curva. Ogni tanto se ne vede qualcuno con la strisciata sulla fiancata. Che devi saltare un po' in ritardo, che le ruote ce l'hai dietro di te, quindi devi andare un po' avanti e poi sterzi, se no ne butti il semaforo. Una o due volte mi hanno stretto in moto, cazzo. Non sono cose belle, là. Io a volte ho paura, sai dove? Venendo da via Sati, dalla stazione, no? Passi il corso Trinità, vai dritto e poi ti trovi il semaforo, che se devi andare dritto, se è rosso ti devi fermare. Però quelli che girano via Bogino hanno il verde, no? Sì. Se sei attaccato alla triscia, passa un pullman che gira a destra, ti entra dentro, col sedere ti entra dentro la macchina. Quindi a volte io guardo sempre lo specchietto, se vedo qualcuno mi allargo un po' verso la sinistra per creare spazio. Già, sì, ho capito adesso cosa stai dicendo. Sì, cazzo, come tipo compasso, come gira, cazzo, ti arriva proprio il culo del pullman addosso, cazzo. Stavo volta indietro, ci saranno almeno 3 metri ancora di cassa. Infatti il conto fa perno sull'asse della ruota e bene o male ti invade la corsia. C'è quello che è attento, il vispo, o si ferma. C'è quello invece che è novellino, che prende e stessa e via. E quindi devi stare attento anche tu a loro. In cavalleria proprio passa un bel veloce, dai. Veloce tra virgolette, dai. Ehi, dai, adesso ti lascio, devo fare una commissione. Ci si aggiorna, ok già. Ehi, grazie mille Fra, dai. Ci aggiorniamo appena sarà possibile. Grazie mille, dai. E alla prossima. Ok, dai, al prossimo miglioramento. Kappa kappa. Ciao già. Ciao caro. Uè Gianni. Ciao caro, e allora? Che si dice? Qua, tutto bene per adesso, dai. E il segnale com'è, Daniele? 9,5 quasi. Bene, bene, bene. Ma trovi differenza da prima? Sì, è più alto. Ok, bene meda, bene meda. Tutto grasso che cola, come si dice. Ho aperto Telegram adesso e ho letto il messaggio. Kappa, meglio così, dai. Hai trovato il compromesso giusto. Come stai usando, Gian? Ciao Claudio, buonasera, ben sentito. Ciao, tutti e due, come stai usando? Daniele è stato gentilissimo stamattina, mi ha passato la boomerang, l'ho piazzata. Vero. Quanto lui sta arrivando? Vabbè, gli ho fatto... L'ho piazzata così, visto che mi sono... ho messo il radialino a 45 gradi, come era consigliato. Il radiale l'ho messo verso il mare. Quanto ti arrivava, quante daniere? 20 punti esci hai preso. Hai capito? Sì, 9 più 20. Da Santiago 9 a Santiago 9 più 20. Quante daniere ti arrivava? Non toccare niente. Ok. Cazzo, l'ho centrata la prima, ragazzi. Mai visto un segnale così di differenza? A me sei quante daniere? 9 più 20 tutte e due state arrivando. Allucinante, per dirti la zona che hai, Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo perché io devo fare alcune cosette e me devo spostare. Ok, ci sentiamo dopo. Kappa, avanti Daniele. Kappa Rogero, buonasera, ben sentito, dai. Come vuoi, se dopo già dovremmo essere ancora qua. Quando rientri, vuoi entrare a farti bel cacca, non ci sono problemi. Ehi, allora devo spiegare alcune cosette e poi ci sentiamo dopo. Adesso è troppo presto, se non rinchiudo qua dentro, devo fare un po' di corsi. Bene, Meda, avanti Gianni, lascia stare tutto così perché da 9, 9, 20 vuol dire che l'antenna sta funzionando veramente bene. Chiedi controlli più lontani. Sei salito da 9 a 9:20. Stasera un paio d'ore fa ho beccato Franco da Sorso e mi ha detto che sta arrivando Santiago 7 adesso, prima era intorno ai 5. Quindi vedi bene, hai aumentato, vabbè. Adesso arrivo a 9 io a Sorso e tu 7 con la boomerang, vedi tu cosa vuoi fare. Mi fa sorridere la cosa, ragazzi. Cioè, vabbè, dai, meglio così. Meglio così, sì, speriamo che ti fermi lì. Una bella zona c'è, cioè, una bella zona, quella è molto aperta. Mi ricordo quando modulava Branca lì da Viale Porto Torres, che arrivava sparato da tutte le parti. Vabbè, anche lui siamo riusciti a sistemarlo, dai. Meglio così, allora. Infatti gli ho detto, fai le prove, vedi un po', sennò cavano i dutti e tra zia al primo cassonetto cacciappi. No, va bene, poi adesso però 5 minuti del rosmetro. E vedrai che così anche il rosmetro tiene tutto sotto controllo. Minchia, Santiago 7, con quella buma da Sorso è favoloso. Va bene. C'è gente che arriva a 7 con la manta, va a farti lo pronto. Bene, dai, sono contento. Vuol dire che le cose stanno... c'è una buona energia in giro, dai. Trovate, è una buona zona perché vedevo con l'antenna della macchina come arrivavi, quindi sicuramente è una buona zona. Va bene, dai. Riprendi con Daniele e ci sentiamo dopo. Ciao. Kappa, ok. Daniele, ho visto che mi hai scritto che forse hai buscato qualcosa. Così mi ha detto. criminale, c'è una persona che neanche lo sapevo, cavolo, stasera mi ha lasciato stupito proprio quando l'ho chiamata. L'ho chiamata per un'altra cosa, invece mi è uscita fuori con questa sera l'antenna. Va bene, adesso stiamo a vedere, quando ce l'ho ci credo prima di tutto. E poi la posso provare. Vabbè, se è fattibile, almeno su Telegram mi puoi scrivere che modello è, se ne hai voglia, per carità. No, chiaramente non sei obbligato, giusto per curiosità mia personale. Guarda, così anche qua, sempre l'Energy 5 ottavi. Ah, capa, buono. Buono, bene, dai, hai visto come arrivano le cose, così. Cioè, ti sei sbarazzata di un antennino, è capitata l'occasione di un'antenna più grande. Il fornitore di queste due ne ha ancora un'altra cartuccia a disposizione e la usiamo se si decide a darmela. Va bene, meglio così, perché devo fare una prova, devo provare a metterci un linearetto sotto, giusto per fare un confronto, non alla pari potenza dell'altro apparecchio, ma tanto saremo occhio e croce, non riesce a tirarli fuori tutti quei 100 watt. Vedere un po' di fare alcuni confronti, cosa succede di segnale, giusto la mia curiosità personale, e poi vediamo. Insomma, ci sono dei test da fare, dai. Sì, ci sono dei test da fare perché lì non li ho mai provati, avevo messo quella manovra turbo così sospesa, diciamo, come se fosse legata a un filo di lenza, si può dire. Stata lì è rimasta e mai fatto altre prove, diciamo, si poteva migliorare, si poteva peggiorare, chi lo sa. Mentre adesso sono delle antennine maneggevoli, c'ho tutto lo spazio e l'occasione per lavorarci, diciamo. Non benissimo, però qualche cosina si riesce a fare. E quindi vediamo di fare alcuni test. E poi vediamo di proseguire. Ho capito, vedrai che è già stata fuori roba buona, dai, che sono sicuro che troverai la soluzione giusta e tutto si metterà a posto. Sì, quello sì, ma no, il problema è che sussiste, non per sentirci qua a Sassari, arrivare forti a Sassari, che bene o male arriva anche abbastanza bene per le condizioni in cui sono, già sento a tutti qua diciamo nel circondario, e per andare un po' più oltre, diciamo, verso Porto Torres, quella zona lì, capito? Che c'era quelle parti, che ancora risentivo Bassini. E tutto sta lì, capito? Tutto sta lì. Perché tu pensa, come si chiama, quello che è entrato da Usilo, io l'avevo mai sentita, forse la prima volta che l'avevo sentivo, l'altra sera. Ho capito, Francesco dice. Cappa, Francesco, ecco, è vero, non mi ricordavo il nome, io ricordavo Marco, ma invece era Francesco. Io l'avevo ancora sentito, capito? In tanti anni che sono qua sulla frequenza e c'avevo anche con l'altra antenna è tutto, è ciccia, capito? Però lui, vabbè, è più in alto, quindi a me lui viene in discesa da me, stava arrivando anche abbastanza bene, io lo stesso stavo arrivando discretamente da lui, non c'erano problemi. Adesso vediamo cosa succede mettendo quest'altra antenna qua, se miglioriamo, peggioriamo, è tutto invariato, vediamo. Ma io, secondo me quell'antenna viaggia di più, secondo me sicuro che guadagni qualcosa, sicuro. Beh, qualcosina, non tantissimo, magari qualcosa la migliore, se non a 5 ottavi, questa è una mezz'onda. E via dicendo, anche se questa mi sono accorto, cavolo, fa Napoli a me che l'ho piazzata male questa antenna, la bobina l'ho messa a posto di passare intorno, diciamo, allo stilo dell'antenna per fare il giro, no? A cerchiarla e prendere, agganciarsi alle sue staffette, gliel'ho messa in punta le staffette e l'antenna a ridosso della bobina. Eppure è tarata, 1-1, 1-2, neanche ci arriva. Ma sembra che stia girando. Evidentemente non ho... il fatto che tu l'abbia piazzata così non abbia influito a livello di funzionamento. Sì, perché ho fatto le prove di taratura e ho visto che tarava, capito? In base a come spostavi, se tu guardi come è fatta la Ringo e c'ha quelle due giri di spirale di bobina, poi c'ha quel morsettino che lo sposti avanti o indietro, insomma, lungo la bobina. Aumentano, diminuiscono le stazionarie. Stava accordando, quindi vuol dire qualcosa già, cioè non ha compromesso nulla, si può dire. Certo. Evidentemente non ho, anche se l'hai piazzata così non è andata a intaccare praticamente il funzionamento. Io adesso stamattina l'ho tirata su, sì, ho stretto tutti i bulloni, ho stretto tutte cose, però chiaramente il PL lo devo isolare e quindi già c'ho le fotografie, dovrò insomma levare il tubo, poggiarla un attimino, isolargli il PL e poi la rimetto esattamente come l'ho piazzata stamattina. Beh sì, quello è importante perché poi si infiltra l'acqua e poi si forma le incrostazioni e tutto e non rende e si rovina. Ti metti quel nastro vulcanizzante intorno e sei a posto, un po' di nastro isolante e ciccia. Già lo tappo bene, già lo cerco di isolarlo bene. Però insomma la punta, allora lo stilo del radialino praticamente l'ho messo a fine corsa e poi ho stretto quella piccola ghiera che c'è in punta, capito? L'ho messo a fine corsa, non l'ho tirato fuori, capito? L'hai portato tutto indietro? Kappa. Andava. Sì, perché ho notato quell'antenna che quando lavora in posti, diciamo, chiusi, tra virgolette, dai, che non sfoga, allora ha bisogno di una leggera taratura un po' più accurata. Quando inizia l'Entrelex lavora in posti liberi, in altezza, dove non c'è ostacoli, allora qualunque cosa è, basta o niente, tu l'hai accordato. Te l'ho detto, ho preso stamattina col goniometro, ho calcolato i 45, l'ho stretta, l'ho portata su, mi sono portato una 10-11 e l'ho piazzata, proprio 10 minuti ci ho messo. Sì, 10 minuti ci vuole, sono 3 bulloncini da stringere a 10, 2 del palo e 1 dell'antenna, ed è a posto. E va bene, meglio così. Adesso si è svegliato il rosmetro. Va bene. Quella, se rimetti anche 2-4 metri di palo e anche quello di TV, arrivi ancora meglio. Ma guarda, sinceramente parlando, a parte isolare il PL, volevo lasciare tutto così com'è. Sì, poi se arrivi bene nei posti più lontani riesci a tirarli fuori tranquillamente, sei di lusso, bisogna fare la prova con con Porto Torres, a vedere cosa dice. Infatti stavo per dirtelo io. Sì, sarei curioso di sentire Eugenio, magari se entra in questi giorni, magari sentire un parere da lui, insomma un referto a livello di segnale. Sicuramente cambierà anche da lui, questo è poco ma sicuro. Se sono salito di due tacche da Coso, da Franco, sicuramente salirò anche giù a Porto Torres. Capa Rogero, buono, adesso si è arrivato quasi ai miei segnali dappertutto. Perché ho lo stesso, sto arrivando intorno ai 7, una cosa del genere, a Franco. Sì, infatti me l'ha detto quando ci siamo sentiti, che infatti non ho, la prima cosa che ho detto, cosa hai combinato? non si può nascondere niente, ho detto, ho messo un antennino diverso, e infatti mi ha detto che ha migliorato parecchio. KK, meglio così, meglio così. Mi va a sentire a Giulio, fare altro confronto con Giulio e vedere cosa dice. Sabe che tu lì punti ce l'hai di fronte, lì si può dire, sali in cima all'antenna e vedi lì punti. Sì, vabbè, una parte me la nasconde Monteoro, comunque sì, una parte è libera. Andava bene, la parte sinistra diciamo, dai, rivolto la faccia a stazione, a girarti a sinistra lì c'è Monteoro. Sì, se fossi stato come posizione più alto di Monteoro avrei visto tutta la nuvola lì. Cioè, avrei visto Monteforte, insomma, tutto il resto. Però c'è Monteoro davanti, vabbè, già riesco a scavalcarlo, dai. Già va bene. Andava bene Meda. Dai Gianni, io faccio un attimo 5 minuti di bianco. Allora prendi un goccio di caffè e poi rientro subito. Fai con comodo. Ok, da dopo, dai. Cappa Rogero, andale. Gianni? Eccomi. Pronti? Complimenti per la macchina, Vero, la mia 500, ti piace? Eia, bella, bella. Complimenti. Mi ricordo anni fa mi era salito un flash brutto. Avevo, insomma, ti parlo di un po' di anni fa. Ho avuto, avevo l'R6, Yamaha R6, bianco e rosso. Praticamente c'era un tizio che voleva permutare una macchina come la tua con una moto più o meno di pari parole, era verde e un capotino bianco. Il tizio ha visto la moto, era proprio entusiasta, lui voleva fare cambio, e gli ho detto guarda, con tutto il rispetto, ma la moto è abbastanza nuova, se mi aggiungi qualcosa, prendiamoci un giorno per pensarci, cazzo la notte non ha dormito nuda, lo faccio, alla fine l'ho chiamato e gli ho detto di no. vabbè, le scelte sono scelte, non c'è niente da fare. Oggi ci siamo divertiti, sono andato a sgranchirla un pochino e ci siamo divertiti. Forse, nel senso, all'epoca avevo un'altra moto, avevo un vecchio Kawasaki degli anni 70, tutto customizzato, celeste militare con la stella rossa, e quella praticamente era stata la mia prima moto, e praticamente la volevo tenere, insomma, per sempre. Poi alla fine, insomma, sono successe un po' di cose e quindi ho detto in sostanza una moto mi rimane, mi vendo, faccio cambio con l'R6, così c'ho la macchina e la moto. Poi ci ho pensato troppo, però devo essere sincero, l'idea mi ha stuzzicato molto molto molto forte. Chissà se ti viene nuovo il pallino di fare la stessa cosa adesso. Adesso le cose sono un po' cambiate, quindi adesso la moto, come si dice, adesso qualche anno fa sono riuscito a comprarmi una macchinetta, adesso qua ferma, devo mettergli le gomme, un appunto, l'ho presa su subito, l'ho presa giusto per tirare su qualche soldo, sennò la mia anima è da motociclista, quindi però i bisogni e le necessità E niente, quindi le cose sono cambiate e adesso devo andare a recuperarmi la moto e sto pensando un po' su se tenerla oppure venderla e vedere un po' cosa fare, insomma, cosa combinare con quello che ci ricavo. Buonasera Gianni, ben sentito, avanti. Buonasera a todos. E allora ragazzi, state parlando di moto. Anche a me mi piacciono molto le moto. Ne ho avuto 5, però tutti su Teruni, no, moto grosse. Moto grosse mi piace l'R1, l'RSI. Mia moglie non me la fatta mai comprare, perché dice che se lo mi ammazzava. Ciao Gianni, buonasera, ben sentito, ben entrato. Ascolta, un attimino Daniele, che chiedo un responso da doppio room. Ascolta, noti qualcosa a livello di segnale? Prova. Ho messo la boomerang stamattina, volevo sapere se da te era cambiato qualcosa. Quasi più forte, sei quasi 9.30, 9.25. Capo, ok, grazie. Bene, me, dai. Quindi abbiamo un altro responso positivo e ciò ci fa molto piacere. Ok, avanti Daniele. Meglio, va bene. Io quanto sta arrivando invece, già come sono dimenticato. Aspetta che prendo gli occhiali. No, a doppio room. Ti ha risposto per me, però. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. 9 e 3. Va bene. L'altro giorno ti sta arrivando, quanto ti arrivavo io col K? E io quando vi arrivo là, adesso voglio vedere anche per me come va la situazione. Qua da me sei 9.10 quasi, dai. E lo stesso segnale ci abbiamo, dai. E da te invece lungo. Già, qua sei 9.20 pieno, abbondante. Qua mi arrivi bello forte, bello abbondante già. E niente, insomma. Adesso giustamente anche l'antenna, cambiando l'antenna è aumentata anche la sensibilità. Quindi qualcosina abbiamo guadagnato anche in ricezione, dai. Vabbè. Almeno dove buttata già va bene quella. Da Daniele portarla di tu. Non lo so, vabbè, me l'ha già detto, però me ne sono già dimenticato. Da me 9.5, è aumentato lo stesso, capito? I risultati si sono visti, in positivo. Intanto lì, peggiorare non potevo, restava così oppure migliorava, due erano le cose. Stazionario perché ne hai? Ancora non te lo so dire, già, adesso Claudio mi deve passare lo strumentino così facciamo una verifica ottica con lo strumento. Io l'ho piazzata tenendomi alle istruzioni, ho puntato il radiale verso la Sinara, nella zona libera, e niente, l'ho messo a 45 gradi come era consigliato, l'ho preso, l'ho piazzata e l'ho attaccata, boh. Ma se non c'è ostacoli, se era stata già calata da Daniele, interessante che non ci siano ostacoli, perché se ci sono ostacoli qui cambiano le stazionali. E allora se è libera l'antenna, vai tranquillo che va bene. Sì, va bene già, ho sentito anche Franco da Sorso, mi ha detto che da 5 sono passato a 7. Anche Claudio mi ha detto che ho migliorato, quindi i responsi sono tutti positivi. Eia, andava, avanti Daniele. Capa Rogero, va bene, meglio così. Ok, già, ma tu non ce l'hai più il gemello di quello che c'avevo prima io anni fa, no? Hai venduto? Io ne ho fatto 2 o 3, non ne ho più tutti qua, non ne ho più. Io c'ho solo il taxi, poi c'ho il Cobra e poi c'ho il coso, come si chiama, il Magno. E più c'ho la Fayette, la 48, che poi ti faccio sentire. K, mi è venuta in mente, ricordo che ce l'avevi all'epoca e poi... voi te ne sei sbarazzato. Va bene, è giusto per curiosità. Ok. Già funge tutto sempre qua, sì? Ok. Vai, riprendi già, tu profe. Eia. Adesso come passa lo strumentino Claudio, voglio vedere. Sono veramente curioso di vedere quanti watt sta tirando fuori questa radiolina. Che radio ti usa? Già, è un vecchio baracchino veicolare degli anni 70. 40 canali, però sono quartati solo 27. È proprio semplicissimo, c'ha volume, squelch e commutatore, non c'è altro. Ma la radio non è chiara, è molto forte, c'è un'amplificata, ma microfono amplificata c'è. Me l'ha passato Massimiliano Bulldozer. C'ho un ZG M95, quello grigio col tasto giallo. Ah, infatti la radio è quella amplificata. Sembra una telefonata già. Quando lo ascolti parlare. Va bene, meglio migliorare sempre, ogni giorno di più. Eia, sono curioso di vedere quante fatti sta tirando fuori. Adesso attacco l'altra. Faccio girare la moto. Vai, falle girare, metti in moto Gianni Ghe, falli andare. Kappa, io ultimamente sto andando agli esperimenti, mi sto dando. Prova, disfa, smonta, fai. Ma adesso Daniele, c'hai l'altro 48, quello standard? Quello normale ciò. L'altro è ancora dal dottore. Domani arriva il pezzo. Spero che gli arrivi. E niente. E così poi, al limite, anche domani sera, ma vada me lo ritiro. Eia. Sono sicuro che come uscirà dall'ambulatorio già andrà bene, dai. Quello è poco ma sicuro. Almeno così è tutto messo a posto adesso. E vediamo. Mia, adesso stavo contrattando, tra virgolette, che mi ha scritto con uno perché avevo messo l'annuncio su un gruppo di Facebook. Gruppo CB Orizzano, mi sembra, non mi ricordo. Comunque qua in Sardegna. Se c'era una scheda del BIP e mi ha risposto uno che a giorni, fra qualche settimana, forse una o due, le toglieva tutto e c'aveva le scheda completa di effetto elicottero e tutto quanto. Adesso valeva un po' quanto mi spari, cioè fai un prezzo perché non ne capisco niente. Ma se non vedo la scheda non posso farti un prezzo, no? Perché poi ci sono schede di tanti prezzi e di tante versioni. Aspetta un attimo, mi sta suonando il telefono, Attenzione, binario 10, cambio. Ascoltate il doppio room che chiama. Avanti. Beh, com'è questo qua? Questo da battaglia. Già si difende. Già si difende bene, Dilli già, dilli come hai detto a me, cos'è? Già. E chi è? No, ero profetta, dilli, già non l'ho provato io, cos'hai detto? Che sembriamo venditori di frutta. Sì, infatti. Io sono la rottina. C'è che io l'ho staccato già, l'ho tolto, l'altro giorno lo stavo provando, io c'ero da prima qua e già, non è che sono, sto ascoltando perché sto facendo una cosa importante al computer, e l'ho staccato, l'ho rimesso dentro l'armadio, lo sai, perché lo stavo provando con Massimiliano e domani è passato l'amministratore e mi ha detto che stavo disturbando tutto il condominio. Buga di tutto immediatamente, è stato rimesso dentro l'armadio. Perché sono apparecchi a fare due giri e basta. Allora, tutto ok, non c'è problema, tutto funziona bene, no? Sto facendo una cosa al computer che devo fare un'esenzione, allora sto scrivendo, c'è una domandina da fare. Adesso la stampo, poi già rientro. La cronaca, Gianni Rubroffetta, sta arrivando a quanto temi, doppio rum. Da 9 è passato a 9 più 20. Allucinante con la bumera. E vuol dire che va bene, dai. Sono contento per lui. Anch'io sono contento, almeno può usare bene il baracchino. C'ha l'M95, la Massimiliano. Cavoli, ho fatto io nuovo, adesso le do uno strumento, lo smetto fatti, lo faccio dal ZG, così tiene sotto controllo l'antenna. Piano piano già si sta rimettendo a posto là. Se prendi e fai girare, io rimango in QX, ci sentiamo dopo. Io non sapevo che tu ci fossi, comunque buonasera. Andate. Allora, Rubroffè, contento, sì? Sì, sì, abbastanza. Adesso con questa radio arrivi con lo stesso segnale di Claudio da me. Smitter, cioè al mio smitter, Beh, Claudio ha un apparecchio professionale. Comunque qua a livello di smitter adesso con questa radio ha il segnale uguale al suo. Ma quindi quanto? 9.20 abbondante, quasi 9.30, dai. Sì, va bene, dai. Ciao, Gabo. Che qua aumenta quella già, rispetto al Galaxy. Qualche punto esce in più c'hai anche qua. No, c'ha picchi positivi, vero? Sì. Spinge un bel quella, c'ha più watt di quella del Galaxy, sicuramente. Spinge un bel. Da 25 vai a 30, col Galaxy rimani fermo a 25. Cara, qua va, se scendi a vendere quel 48, lo facciamo fuori. Non sono riuscito a far fuori i miei e quelli di Massimiliano, figurati, non ce n'è più di gente che... Non è manco camionisti più... Oh, Daniele, guarda, io il mio l'ho usato l'altro giorno, avete sentito? L'ho preso, dentro la busta e dentro l'armadio. Non ce n'è più piazza per niente, non solo per le radio modificate, ma neanche per queste, per nulla, no? Assolutamente, tutto fermo, non bisogna di nai, poi la frequenza ormai sta andando a morire, no? Non è ormai nessuno. Siamo solo noi nel canale 10, giri 80 canali, ovvero un cane. Cappa, no, perché voglio fare quell'operazione? La... Adesso no, non a brevissimo, ma a breve. Guarda, a me mi devono portare un 440 da a verificarlo, verificare se è in condizioni da poter vendere o se usare a pezzi di ricambio, nel senso che esteticamente è bello, c'ha qualche graffietto, però non accende. Adesso lo devono portare e io lo provo, vediamo perché non accende. Se è una cosa che mi compete, va bene. Se non è una cosa che mi compete, lo rimetto dentro la busta e glielo ritorno. Perché può darsi pure scomodo da tanto tempo fermo che abbia qualcosa che non passa alimentazione. Se riesco a farlo funzionare, lo vende. Se no, glielo ritorno. Molto probabilmente me lo tengo io e lo uso a pezzi di ricambio, perché 440 è sempre meglio avere uno di scorta a pezzi di ricambio, perché oramai ricambio e 440 ce ne sono ben pochi. Ehi, ce n'è anche un 14 se ti passa tra le mani. Sì, 14 già ce n'è, me ne è passato anche uno da poco, bellissimo, nuovo, che l'avevo qua perché mi hanno portato a memorizzare, e c'è quel problema che tutti lo... non sanno memorizzarlo, lo memorizzano sino al canale 9 e poi dal 10 praticamente al 20 ti entra in funzione lo split, quindi c'è da fare un altro sistema tenendo premuto A uguale B e memorizzando i canali sino al canale 20, poi dal 21 al 30 partono normalmente. E quindi l'ho memorizzato, l'ho provato, perfetto, molto bella cosa. Anche quella ce l'ha giusto per ascoltare. Ma voi già ne vai, un po' già dove ci vittorio. Il ricettore deve trasmettere. È un te che vai al ricettore a blu per ascoltare. Ma vediamo se mi sale in testa lo vendo, fammi sapere. Se lo vuoi vendere due voci in giro e vediamo se riesco a fartelo vendere. Già ce n'è radio, Daniele, non ti preoccupare. Quando hai la disponibilità me lo dici e già si trova. Io chiesto bene come ciò. Si è fatto un'altra abbazia, la Buburu, vabbè, era un'occasione, altrimenti non l'avrei presa, però stiamo parlando di Radio Cash. Gianni, non ridere Gianni Doppio Room. Doppio Room. Perché ogni volta Gianni dico non compro più niente, invece poi quando ci sono le occasioni è chiaro che come fare a fartele scappare. E vabbè, dai. Avanti, Rubrofetta, riprendi, datemi altri 10 minuti e ci sentiamo dopo. Eia. No, vabbè, adesso ero curioso di... mi è sfuggito il passaggio della storia della motocarrozzella, dice che stavi rompendo le scatole. La motocarrozzella? Già ci siamo capiti, no? Quello gambio. Ah, sì, patate, mele, pere. Allora, non te la metti a tre a prendere una circolare nelle bacchette, no? Che ci abbiamo scala per scala. Già ci ti ho fatto, mi bravo. Ma sei sicuro? Ma te la scherzare. Mi ha trovato quello vicino, mi si sentiva la tua voce forte con l'eco che facevi cambio, e là già sono io, sì, stavo provando la radio di quelle modificate, adesso la tolgo e la metto dentro l'armadio, infatti già rimane dentro l'armadio, perché io in 35 anni che sono qua non l'ho mai disturbato, la vostra la disturbare io. No. Ho capito, dai. Bene, Meda. Doppio Room adesso sta cambiando anche lui il motocarro, vediamo un po'. Gianni, ci sei? Deve essere al telefono. Prendi pure, che mi sta un po' sta cosa e poi riprendo, vai, così. Mi dice tutto il bambino che fai in occhi. Andà bene, Meda, clà, fai, già siamo qua noi. Non c'è problema. Ok, riprendi Rubrofè. Al telefono Gianni, riprendete voi. Mi sono liberato adesso. Allora riprendi già. Allora, non so di che cosa stavate parlando, comunque questi apparecchi si possono attaccare per poco, infatti adesso lo stacco e attacco il magnum, così li faccio girare tutti. Vai, accendi il magnum. Ma cos'è? Chi sono di là, gira il magnum cos'è, San Montana, cos'è, che magnum è? Magnum Piai. Rubrofè. Eia, dimmi tutto, stavo guardando, leggendo una cosa al computer. Riprendi. Eia, adesso sentiamo il cornetto San Montana di Gianni, vediamo un po' cosa ci tira fuori. Avanti il break. Ciao Fabrizio da questa parte. Gianni, mi dai un controllino se è troppo come regolata questa radio? Ti dispiace? Siamo due Gianni, ciao Fabrizio, ben sentito, ben ascoltato. C'è Doppio Room e Rubrofetta, quale vuoi? Whisky. Sta cambiando, sta attaccando un'altra radiolina. Vabbè, là l'aspetto, volevo vedere come sta uscendo, perché ho toccato qualcosa qua. Vi ringrazio. Comunque un 430 ce lo dovrei avere io col filtro AM. Ciao Massimiliano, ben sentito, buonasera. Daniele da questa. Ciao Daniele, non sono Massimiliano. Sono Fabrizio. Comunque un 430 lo dovrei avere io. Eia, cavolo. Massimiliano, Fabrizio. Sto andando già i numeri io. Non è niente, non ti preoccupare. Va bene. Buona a sapersi. Buonasera Fabrizio. Io. Ciao Gianni. Aspetta che abbasso, che qualcuno ha toccato. Allora, com'era qua la... non mi ricordo niente, c'ho la testa già, eccolo qua. Ecco qua. Dimmi come sto uscendo di radio già. Stai uscendo benissimo Fabrizio. Secondo te bassa o è alta la regolazione? È normale, dai. C'è qualcuno che mi ha salutato sul fondo. Ciao anche a te. Mi sembri Eugenio. Ehi Eugenio, ciao, buonasera anche a te, dai. Non so se gli altri ti ascoltano, meglio ti ascolti. Lo ascolti Fabrizio, Eugenio. C'avevo quel inserito, a parte che ho le antenne basse, che ho il carrello a terra che sto facendo dei lavori, quindi ce lo passa l'antenna, però lo dovrei sentire, adesso tolgo lo squelce e vediamo. Cosa sei magnetti? Un biscotto fatto da mamma che mi ha dato l'altro giorno, come li facevo quando ero piccolino. Il biscottino li ha dato, piccolino. si sente che stai pappando, eh. Allora Gianni Lubroffetta, ti piace questo apparecchio? Sì, sì, ottimo e abbondante come l'altro, il segnale è pressoché simile, la radio è 5, quindi tutto grasso che cola, come si dice. Andà bene, questo qui è uno dei tanti, dai, dai. Ogni tanto bisogna farli girare perché sennò poi si rovinano. Fabrizio, cosa stai aggiustando oggi? Niente, c'ho un mese tutto a terra perché le antenne le ho messe a posto, aspetta qua, le antenne le ho messe a posto, le schede le ho riparate, riprogrammate tutto, parte delle radio le ho riparate, parte ancora sono da controllare, qualche battaglio finale, qualcosa, però ho problemi con il rotore, quello che avevo costruito, ma c'è un problema però. È partita la scatola di comando e sto ricostruendo con un altro sistema di comando. Ho costruito il control box, tutto quanto, display e tutto, però ho programmato, ma ho problemi con l'impulso dell'encoder. Non riesco a fargli riconoscere la stessa velocità che mi ha fatto la tarattura. E sto uscendo di testa, qui col lavoro sono incasinato e quindi quando sono qua, sono in stazione, sto provando a fare queste tarature. Ma io non sono bravo con Arduino, la verità. Si sta andando, non sono molto bravo con Arduino. Costruire sì, fare, ma poi la programmazione mi blocca un po'. Bisogna anche impari bene, che studi, provi a studiare. Così già, fa sempre facendo qualcosa, comunque dai, qualche riparazione sempre la facciamo. Entro io un attimo, ragazzi. Ciao Fabrizio, niente, volevo, se è possibile, sapere una cosa, più o meno da che zona stai modulando e mi dici come ti sto arrivando io, ok? La zona è via Domintoni, angolo via Montegrappa, magari vi dovessimo fare le antenne alte. Il tuo segnale è 9.20, considera che le antenne però ce le ho abbassate adesso, quindi comunque è buono il segnale, ottimo. Ok, ho montato la boomerang stamattina e la sto testando, quindi volevo sapere più o meno come girava, dai, grazie. Di niente. Non vorrei che hanno toccato qualcosa. Vai Gianni. Allora via l'Italia vai bene, da Fabrizio vai bene, da me vai bene, quindi un po' tutta la zona, adesso bisogna provare i punti, quella zona lì. Tu sei in una zona buona, la stazione è una buona zona, c'ha un'apertura vasta. Ciao Eugenio, ben sentito, ben ascoltato, adesso sei appena più su del QRM, non so se sei in barra mobile. Ho messo la boomerang, quella a 3 metri di spiccioli stamattina, grazie a Daniele, quindi niente, la sto testando e niente, sembra che vada ottimamente. Ciao Eugenio, ciao. Ciao. Ehi Gianni, sei arrivato anche a Porto Torres, dai. Va bene. Bene, ce l'ho a vista, lo vedo dalla finestra di casa, c'ho la visuale libera, quindi sarebbe il colmo caso se non arrivo lì. Ma diciamo che deve essere una buona boomerang quella lì, perché di solito le boomerang, te l'ho detto già, sono direzionali, se vanno bene in una zona nell'altra non vanno bene, invece questa vedo che sta andando bene un po' dappertutto, è meglio così. A 360 sta girando. Deve essere il rotore, di la verità. Sì, un motore di tesi cristallo la Gevuscio. Hai messo il rotore, la punti nella zona, a cavo i fusti. Poi prende, punta e spara. Oh Fabri, fammi sapere quanto ne vuoi per quell'apparecchio. Non lo so nemmeno io, è un apparecchio. È che c'avevo questi apparecchi che avevo rimesso a posto. 4.30 era quello che usavo prima, un paio di 4.40 li ho dati via, uno me l'ho tenuto, il 140 un altro l'ho dato via, mi è rimasto questo 4.30 che è praticamente esteticamente nuovo, in ottime condizioni, gli avevo messo il filtro AM perché sennò non si poteva usare in AM, E poi mi è entrato questi due 440 che li ho messi a posto, uno l'ho portato al mare e uno in stazione per usare le 27, non più la tipologia, più niente. Quel 440 mi è rimasto, boh, è su da 7-8 mesi, lo dovrei prendere e riprovare se va tutto bene. Per il resto era a posto quella radio. Vedete, in questi giorni se ci sentiamo la collego qua così te la faccio sentire. Eia, eia, che sto cercando di farmi la vecchia stazione che avevo prima. Dovrei avere anche l'alimentatore, mi sembra di qua, però un po' di roba su già devo avere conservata, non lo so, dovrei guardare cosa mi è rimasto. Va bene, ok. Così vediamo di valutare un po', dai. Ok, dai, io mi assento per farmi la mia aerosol periodica. Poi, se hai, perché a me il 430 la verità non è mai piaciuto, se hai qualche 440 da mettere a posto che non è stato scacciavittato, va veramente, che non è stato scacciavittato da nessuno, magari possiamo anche vedere di fare uno scambio con un'aggiunta di qualcosa, dipende da cosa c'è la radio, capito? A vedere, se non ci abbiamo messo le mani dentro, perché sennò impazzisci a ripararlo. Io non c'ho niente, io sono tornato calimero, povero e nero. Ciao Fabrizio. Ciao Claudio. Ma Daniele, da dove stai modulando tu, da casa di tua madre o da casa tua? No, ci ho portato tutto giù adesso. La posizione dell'antenna è rimasta invariata, però ho fatto la calata giù. Ah, ecco, capito. Quindi lo stai facendo assorbire anche a tua moglie l'apparato. Sì, guarda, mi sono dovuto fare un soppalco, cavolo, da 1,20 m devo starmene seduto. Di altezza, se no qua mi mandava via radio quanto c'era. Vabbè, dai, piano piano già ti ricomponi anche tu. Anche io un periodo ci avevo tutto vuoto, poi ho ricomprato tutto nuovo. Così è già, è così. Che se no, guarda, almeno qua sono in alto, non c'ho rottura di scatole di nessuno. Tolgo la scaletta e non c'è nessuno, mi tocca le cose. Sono su un isolotto, si può dire. Ecco. Ci sono entrato. Ciao Fabrizio, che prima non ti sentivo. Ciao, ben sentito anche a te. Non posso dire ben sentito che non arrivi altissimo, eh. Io poi, come ho detto qua, ho le antenne basse, quindi fuori Sassari magari non è che... Però già ti ho sentito. Vabbè, solo il tuo segnale qua è abbastanza buono comunque. Andate. Ciao, Luca. Fate entrare il brecco che mi sta allontanando un attimo. Avanti brecco. Ma sicuramente sono mezzo soldi, io, capito? Ciao, allora ti ho sentito a Gianni doppio rutto, poi ho sentito a Eugenio e a Daniele mi pare. Poi chi c'è ancora? Non so chi c'è in linea. Aspetta, voglio sentire a Coso, ciao Massi, voglio sentire a Gianni Rubroffetta, Gianni! Ciao Eugenio, buonasera, buonasera, ripeto, ben sentito, ben ascoltato, Santiago 9 Radio 5, qui è Radio Lubrofetta, Sassari Centro Storico. Grazie, manco mai, mi sentumi, auguri, andate, va troppo bene. Un secondo, vuol dire una cosa a Fabrizio. Ciao, Massimiliano. Oh Fabrizio. Dimmi Claudio. Ho detto, me ne devono portare uno da Olbi a me di 440, mai toccato, perché questo ce l'aveva dentro la barca. E praticamente io l'ho visto il giorno che ero a Olbi. Sai, un po', come si dice, dai, dalla salsedine, nei chiesi, ma quindi per te non è un problema. Però non accende, lui ha venduto la barca e l'ha staccato questo 440. Quando me lo porta magari lo lascio da Roberto, ci vediamo, passi e te lo prendi. Se ne vale la pena ripararlo, che si può riparare, perché lui ha detto che non accende più, non so perché. Però non l'ha mai toccato, non sa manco come ha fatto dentro. Capito, lo vuole dare. Ma ecco, te lo scendo a Sassari, quando scendo a Sassari te lo porto e vedi, siccome io non so manco dove metterci le mani. Quindi se magari è una cosa che ti può interessare me lo faccio lasciare, vedi, se ne vale la pena, che si può riparare, così le dai una valutazione tu di quanto si può, quanto lo può vendere, o se te lo vuoi prendere tu la stessa cosa. Però non l'ha mai toccato questo, eh. A venduto la barca e attaccato la radio e andato a accenderlo, non accende più. Chiedi quanto le vuoi quello controllo, perché quando in mare potrebbe essere roba di ossidazione, quindi se cosa gli è successo potrebbe essere poca roba, molta roba, e comunque in ogni caso essendo lì probabilmente ci sarà come quello di Giulio da rifare tutti i, anche se poi lo accende perché è successo qualcosa, non lo so, se non accende può essere tutto di più, può essere poca roba come può essere qualcosa di serio. Diciamo che 4.40 c'è un sacco di ricambi, li metto a posto, poi li conosco come le mie tasche, andiamo a vedere cos'è, se qualche scherzo, tutto e di più può essere poca roba come può essere molta roba, è comunque una delle cose del 4.40 che bisogna guardare quando si compra e che siano stati rifatti i VCO, perché se non sono stati fatti i VCO prima o poi ti danno problemi, più prima che poi di quella radio, e per rifarli o li fai come ho fatto a Giulio, li ho fatti punto e basta, se no non ti bastano 150-200 euro di lavoro, capito? È quello che io dico sempre a tutti, e anche la mia l'hai fatta tu, sta sempre andando, quindi non è quello il problema. Quello che io dico sempre a tutti, non vi fidate a comprare i 440 se non da persone fidate che vi possono dire, come Fabrizio, come me, la radio è stata revisionata, perché se vi lascia piedi non ci vuole meno di 200 euro, 150-200 euro per mettere a posto. Quindi state molto attenti, io l'ho sempre detto a Fabrizio, chi quando me la porta te la do, non lo so, ma penso che non ci siano problemi. Comunque ti faccio sapere, che l'ho vista io quando lo rivolgo la staccata, c'ha un po' i case, qualche puntina di ruggine, però ripeto, la radio non accende, siccome ti ho sentito che non sia toccata, scacciavettata, lui non sa manco come è fatta dentro, perché uno che ce l'aveva in barca non ho capito perché c'era quella radio in barca, non so, vabbè, comunque ti tengo informato, quando me la porta poi farò di tutto per fartela avere. Ok, ciao Massimiliano, ciao a tutti, comunque io ero qua che stavo finendo di fare questa cosa al PC, e niente, dai. Avanti a chi tocca, sì, hai visto Eugenio, arriva molto bene adesso Gianni Brofetta, un bel segnale, va bene, dai. Ok, allora il cambio per Gianni da Piuru, mi fai girare tu già, a Massimiliano che è l'ultimo entrato. Riprendita la Massimiliano che non è parlato nulla, dai, buonasera. Ehi, buonasera, ciao Fabrizio, ciao Claudio, Eugenio, Gianni, l'altro Gianni. Non è un problema se non ho parlato, ho già ascolto anche io. C'ho le orecchie un bel pelose, capito? Sì, io c'ho quell'apparecchio che quello che vendono i cinici. E appunto per quello, là. Facciamo riprendere a Eugenio che è il più lontano, che vuole sentire a questo Gianni il profeta, va, avanti Eugenio, ok, là, già sparito, allora va bene, là. Riprende Fabri, buonasera, ben ascoltato. Ciao, buonasera, ben ascoltato anche a te, sì, riprendo io. Sì, vabbè, come stavo dicendo poco fa, il problema di questo radio è che se vanno bene, più che revisionare, che vanno bene, non abbiamo problemi elettrici, che poi comunque tu le prendi e dopo magari 10 giorni si hanno problemi, non è nemmeno colpa di chi te le dà, perché purtroppo io che il mio ce l'ho sempre qua, ve lo revisiono io, lo metto qui, ogni tanto mi dava problemi, cacchio, ne avevo uno, lo riaprivo, lo controllavo, lo mettevo a posto, magari lo tenevo spento, dopo lo vedevo, funzionava e ogni tanto, ma non perché, sapevo che quello che avevo fatto prima era a posto la radio, vorrei revisionare, però purtroppo essendo così vecchia la radio, sono soggetti ogni tanto a avere un condensatorino, l'affare, fesserie, però hanno problemi e secondo il problema ci si è trovato, anche se è un problema. Per i cofani e quella roba lì avevo trovato le vernici, praticamente ero riuscito a fare con una tecnica di io lo sai che restauro mezzi, quindi anzi se ne sto restaurando due, per hobby sempre. Una tecnica tra trasparente e vernice dello stesso colore, ricreare diciamo lo stesso colore, la stessa cosa, sempre roba bicomponenti, quindi ci butta anche diluente sopra, non gli fa niente alla radio dopo, per riverniciarle. Right. Riesci a fare anche lo stesso colore delle mascherine per fare le bordature e non ti rendi conto nemmeno che sono stati rifatte, quindi anche quelle teoricamente si può fare, anche se sono prodotte che costano un po', però comunque teoricamente è fattibile tutto. motivo ti dico, quando fai una gara, se la posta esteticamente è cosa, vale la pena, però se inizi a avere problemi, i tuoi cofani li devi rifare, rifarle elettricamente e i VVC, ci sono magari per 250 euro di danno, non ne vale la pena, capito? O te la fai tu come Ubi, no? E allora va benissimo, ma se la devi spedire non ne vale la pena, quindi come tutte queste radio vecchie, queste varie, questi HF vecchi, che ce ne sono tanti, radioamatoriali vecchi in circolazione, a posto magari possono valere 500 euro, 400 euro, però se hanno problemi il valore o le metti a posto tu, mi ripeto, se no non conviene, dai, spedirle. Ecco qua, riprendi Claudio. No, ma infatti lui no, assolutamente, scusate, se no ci spostiamo un attimo. Assolutamente Fabri, no, non ne ha neanche parlato di spedirla, sa che io ce l'ho, sa che sono rematore, ci siamo conosciuti tramite un amico di Urbia, un collega di Urbia che sono andato a trovare, no? Qualche collega, e da lì ho visto questa operazione che stava facendo. Allora arrivo alla mia, così stiamo parlando, mi ha detto, sì, lo tocca adesso dalla barca, ho visto che era un pochino, ma niente di particolare, evidentemente era un posto anche abbastanza, però lui aveva la barca praticamente sempre ferma, quindi poi alla fine si è anche una bellissima barca, alla fine si è deciso di venderla e ha staccato sta radio e l'ha lasciata a un radioamatore, insomma, lì di Olbia, ad uno che conosce lui, non so manco chi sia. E questo radioamatore mi ha detto, quando scendo a Sassari te la porto, così vedi se riesci a farla accendere. Ho detto, guarda, io non ho nessuna capacità per poter fare niente, io l'unica cosa che posso fare è attaccarla alla corrente e vedere se accende, perché non accende nel caso sia un fusibile, te lo posso sostituire, se qualcosa ti posso fare io te la faccio, ma no, se sono altre cose non te ne posso fare. Ecco perché ti ho detto, se quando io me la portano è una cosa che è interessante, si può fare, capite? Non si può fare. Va bene, poi già ti faccio sapere. Ok, allora, facciamo girare, Daniele, riprendi tu, dai. Siamo tutti pariti, Gigi. Gianni il Profeta, riprendi tu. Eia, ciao Massimiliano, ben sentito. Niente, volevo sapere un referto da te, ho messo la boomerang stamattina e volevo sapere se l'ha cambiato qualcosa. Cazzo, da me è cambiato, sì. Da Santiago Zero a Santiago Sei, non uso. Cazzarola. Bene, G, grazie mille. E la radio com'è? No, la radio è bella, perfetta, pulita, la tua voce, ma è il microfono originale. No, è il microfono che mi ha dato Massimiliano, lo ZG M95, quello leggermente amplificato, dai. Preferenza va benissimo, la strada vicino, tu capi nuda, io andrò pure. Bene, tu sei 9 fisso e radio 5. Vediamo se è rientrato Massimiliano. Massimiliano, niente, dai, si è spostato anche lui. Ok, dai, oggi facciamo girare. Doppio lu, ci sei? Sì, che ci sono. No. Vabbè, dai. L'interessante è che piano piano si vada avanti, solo profeta. Adesso sei abbastanza nel giro, dai, ti ascoltano un po' tutti, quindi va bene così. Poi piano piano vuoi mettere un'antenna grossa, la metti, ma quando l'antenna va bene, poi non ti conviene manco cambiarla. Andava. Fabrizio, cosa mi racconti di bello? La stazione è tutta sistemata? La stazione... Stazione sì, no, più o meno è un sì, sono apparecchi attaccati, per carità. La stazione devo cambiare perché se faccio il piano a casa la stazione la sto facendo una stanza apposita per la stazione, così mi sposto e faccio spazio, che qua non ho spazio. Stazione, il 910 l'ho ricomprato perché quello era completamente andato. Un dual band del 2820 l'ho ricomprato. Il 5000 l'ho comprato ed è ancora da piazzare, il 9000 grazie a Dio, escluso l'accordatore, lui ci sta dietro, si è salvato, il 440 l'ho riparato, e tutti i wattmetri, i rosmetri, quella roba lì li ho riparati, control box di alcuni li ho riparati, le antenne le ho riparate, il controller dell'antenna l'ho riparato, poi con i suoi cosa mi è rimasto a fare, i commutatori li ho riparati, il 2725 ce l'ho in riparazione, il controller dell'antenna esterna l'ho acquistato anche quello, mentre tutti gli apparecchi da laboratorio si sono salvati, quelli adesso sono salvati. Poi qualche altro apparecchietto così più o meno riparato, più o meno quello che ho riparato, un po' di danno, un colpo di danno già l'ha fatto, che meglio ho riparato io, se no c'era un danno pazzesco. Poi un po' l'ha fatto, la 7000 che avevo in punta è esplosa, non l'abbiamo trovata, l'ho sostituita, i motori che convertono la polarità delle monobanda VOHF li ho rimessi a posto, adesso sto lavorando sul rotore, però sto già impartendo sul rotore, sul controller del motore, ho deciso di cambiare il sistema di comando e sto impartendo, mi adesso sto qua il programma davanti al computer, ci sto lavorando, ma come dicevo non sono bravo con Arduino. Zero no, ma praticamente ne ho ancora strada da fare. A te già. Sì, vabbè, applicato ti già ci dici, già come tu chi hai le mani d'oro, da. E quello anche che ti ha salvato, se no il danno per un'altra persona sarebbe stato ancora peggio. Diciamo che è stata una cosa un po', diciamo, sconvolgente. Ma da dove è entrato? Dall'energia elettrica oppure da dove? Nell'impianto elettrico non si capisce bene perché ha scaricato un po' in tutto il quartiere, hanno fatto danni. La mia sfortuna è che ha preso fuoco, che ha scaricato completamente sull'impianto elettrico, quindi mi ha sciolto tutto l'impianto elettrico e ha esploso in camera del bambino, parte delle stava prendendo fuoco anche il letto, ha preso fuoco la poltrona della stazione che è stata spenta, poi ha spaccato tutto, anche il 3000 l'ho riparato, e quello è entrato da lì, è entrato gli amplificatori VOHF di Gaetano, quelli li ho messi a posto, ha fatto poco danno, il computer lo stesso l'ha esploso, perché chiudo l'impianto elettrico, quindi si è data una sovrattensione dall'impianto elettrico, è andata a scaricare quindi tutta la parte a massa, quindi tutte le parti finali delle radio le ha tutte quasi fritte, è quello, poi ovviamente avendo molte parti metalliche, credo che sia risalito poi dal traliccio e ha fatto salitare la 7000 che avevo in punta, ha fatto saltare, anche se non scollegate le schede di controllo me le ha fatte saltare, mi ha fatto una marcatura sul boom impressionante, che c'è un boom quadrato, immaginate la botta dal commutatore e antenna, li ha sciolto tutto, ha preso fuoco la cucina, quindi ho dovuto rifare tutta la cucina nuova, rilevare tutto il parquet, cambiare tutti gli elettrodomestici, tutti i televisori, sto qui qualche televisore me l'hanno anche riparato dopo, ma l'avevo già cambiato e tutte cose, un bel di danno, ho dovuto rilevare il parquet. E comunque dall'impianto, diciamo, una sovrattensione nell'impianto elettrico, e lì e poi avevo tutti i cavi dell'RF, ha corso lì e ha fatto danno da tutte le parti, e la cucina, ti ripeto, ha preso il gas di città, e quindi il danno è stato notevole. Cazzarola, mi dispiace un bel, vabbè. Lo so, però purtroppo i lampi, i fulmini sono così, quando scaricano, io ho visto troncare, se tu noti, andando a Porto Torres, se fai sorso di vidriati sicuramente tu, non lo so se fai la 131, ma io faccio la sorso di vidriati, prima di arrivare alla casa cantoniera, in quel rettilineo che c'è un palo che praticamente il ferro là praticamente è spezzato, capito, il fulmine, l'ha troncato. E così, io l'ho vista l'intensità, da me è stata una corrente indotta, perché se fosse stata, io ho visto i danni dei fulmini, se una corrente direi, se un fulmine direi, diciamo, se scarica proprio lì, comunque ti buca tutto, fa proprio, ti squarcia mezzo palazzo, è stata una corrente indotta, quindi è caduto molto vicino, perché ha fatto molto danno, cioè non mi ha sollevato anche una trave del, io essendo all'ultimo piano che c'ho sui terrati, mi ha sollevato anche la trave, una trave dal terrazzo, diciamo, del soffitto che c'ho, si vede proprio lì che ha scaricato sulla trave, infatti la parte dell'impianto elettrico delle luci non gli ha fatto niente, però ha scaricato e ha bruciato ed esploso in bagno, proprio esplosa la lampada, tutta la parte luci, perché ha scaricato lì e passava lì vicino i cavi della lampada, e quindi cacco, l'intensità era talmente forte che ha esploso anche la lampada, è esploso tutto, un danno impressionante. Il problema è che io non c'ero, che stavo lavorando, e meno male che mia moglie è stata brava a spegnere l'incendio in stazione radio, poi loro sono usciti fuori, non si vedeva più niente, c'era fumo in tutto il palazzo, sono intervenuti i pompieri e sono stati anche bravi, perché hanno parzializzato l'acqua e non mi hanno fatto poco danno, sono asciugata anche l'acqua, immaginate un po'. Per carità, che c'è lo spavento che ci hanno preso, c'erano anche i bambini in casa. Sì, c'erano anche i bambini. Vabbè, là. È interessante raccontarlo tranquillamente, Fabri. Ma ci vengono di là, diceva quello. Avanti, Daniele, se ci si. Ma fatemi capire, adesso Daniele ha una trattenna, oggi. No, le prendo io così, vado a portare il cane. No, e oggi c'era la boomerang, Gianni Lubrofetta, c'è la boomerang, Daniele c'ha sempre la stessa antenna, ancora non l'ha tolta. Dai ragazzi, io momentaneamente mi allontano, vado a portare un po' il cane in passeggio. Ciao Fabri, piacere averti ascoltato, poi con calma ti aggiorno su questa cosa, penso me la porti dopo Pasqua e così vediamo un po'. Ciao Gianni Doppio Rumo, Gianni Lubrofetta, Massimiliano, Daniele e a te Eugenio, dai. Il cambio per Massimiliano e io mi allontano dalla radio. Se ci siete, volentieri riprendo dopo. Avanti Massimiliano. Massimiliano non c'è. Allora riprendi tu Fabri, fai girare e ci sentiamo magari più tardi. Ciao a tutti. Ok, riprendo io, dai. Vediamo un po' chi c'è, non lo so. Io sono qui che sto lavorando, mi sto distraendo troppo, non riesco più a capire niente. Dai, rimani in ascolto, riprendi già, al limite poi entra a salutare. Ma sei lontano, perché si è abbassata un po' la radio, Fabri. Aspetta che provo. Allora, vediamo un attimino. Una cosa volevo provare. Ora, uno. Ecco, guarda così. Allora, senti questo passaggio, come va meglio? 1, 2, 3, prova. O così, 1, 2, 3, prova, dovrebbe andare meglio così. Sì, la seconda. Comunque si è sentita una scarica, Fabrizio. Come ho sganciato il tester, stavo facendo delle prove. Guarda adesso, guarda, prova a sollevare leggermente. Ecco qua. Come ti sembra che vada? Meglio oppure troppo alta? No, è troppo così. Meglio così. È troppo alta, abbassa la pena, magari lontananza si sente meglio, però diciamo io la sento troppo compressa così. Adesso ho riabbassato, guarda un attimino, devo abbassare ancora. No, va bene così. E allora la lascio così, va bene, dai. Così ti sento troppo basso. È lontananza. Fabri, prova a aumentare di nuovo. Adesso ho aumentato un cc proprio, guarda un attimino se va meglio. E così è bella compressa però, capito? Nel senso che si sente la potenza da battaglia. Lascialo così, ti sento bene anch'io. Lasciamo così, dai. Sì, così va bene, lasciala così. Perché magari lontananza, io ti sento bene, per lontananza magari ti sento più basso. Dani Vitto, ci sei? Gianni Rubio Fetta, sei diventato troppo forti. Oi, oi, dai, già va bene, oggi va benissimo. Almeno sono finito a far correre, Bene, da Santiago sì, dai, sono contento. Sicuramente Massimiliano e Daniele si sono spostati un attimo. Va bene. Fabrizio l'ascolto molto bene, ascolto tutti molto bene. Adesso va molto meglio, dai. Sì, ma Fabrizio l'avevo urlato, non ho capito. Da via Don Minzoni. Via Don Minzoni, Sassari e Don Pepo? Padre Manzella. Sì, ma in che tipo di Sassari è via Don Minzoni? Come spiegartelo? Via Montegrappa, quella zona lì. Ah, via Montegrappa. Via Milano, non c'è troncato, no? No, che sono fatto Ruiu, vai dritto. Vabbè, boh, non so. No, sono va bene, manda per la stessa. Vicinanze policlinico, come? Come? Vicinanze, è lì in zona policlinico, lì vicino. Ah, ho capito, va bene. Marco, ma libera amico mio! esagerato, ragazzi. Bene, dai. Non so, Massimiliano e Daniele, ci siete? No, si sono spostati. Va bene, dai. Avanti doppio rum, fai girare, dai. E stiamo andando e diminuendo. Aiuto, deve entrare un po' di gente. E io ancora non ci sono andato a portare il cane, fra poco ci vado, dai, poverino. Qua c'è Beto Drumito, lui è tranquillo, quando io sono là vado si trovo. Io devo andare dal vicino di casa, Franco, a vedere come sta il suo cane, il suo, come si chiama, ma, e vabbè, non è un cane grosso, nero, si è azzuffato col mio, gli ha strappato le orecchie, gli ha bucato la gola, un casino. Col dog argentino. Quello lì è un, ma non volevo dire, però ce ne sono etichettato un, ma accidenti, quelli che fanno un po' di papa. No, non è, c'ha la testa grande, è non un Rottweiler, è un accidenti, ma è solo etichettato, c'ho sopra la lingua. Un cane corso, esattamente, il cane corso. E cosa gli ha fatto, un verità? Gli ha strappato le orecchie, poi gli si è attaccato alla gola, gli ha fatto un buco in gola allucinante. E adesso devo andare a vedere come sta. Perché è entrato da me, capito? È uscito dal cancello suo, è entrato nel mio cancello e c'è il mio cane, mi sono afferrato. E cane corso non è masito, Lo so, infatti ha detto voi, no, grazie, scappa il mostro. Se non le ho attacco io, l'ho preso per la coda, l'ho tirato il mio. Avevo paura anch'io che si girasse a me. E al mio non lo sai cosa gli hanno fatto. L'altro giorno l'ho portato giù, gli ho messo la museruola, il coso, il guinzaglio, perché a volte secondo se non è simpatica la persona come si pongono, no? Che gli mettono la mano sopra la testa, lui si gira, allora gli ho messo la museruola per evitare problemi. Beh, ragazzi, questo pitbull scappa al padrone, ragazzi, lo si attacca da lui, non si poteva manco difendere, se andava a girarsi non ce la faceva, ha preso la cuscia, l'ha buttata in terra, poi l'ha fatta la gola. Meno male mi ha aiutato una ragazza che c'ha il pitbull, sapeva come aprire la bocca, sennò era battuto lui. Sano, mi è spiaciuto, cazzo, era una maschera di sangue. Mi è toccato a farlo il veterinario. E cosa ha fatto? Le orecchie ricucite le ha? Le ha proprio strappate, ne ha una proprio a metà, l'altra è a pezzettini. Sono mali i dog argentini, per poco sembrano bravi, ma sono territoriali. Cazzo, non avevo mai visto il mio cane così. Mamma mia, stavo tenendo anch'io a mettermi in mezzo per staccarmi. E meno male che non ti ha denunciato. Invece quello che ha morsicato il mio mi ha detto che non ci aveva soldi, mi dava piano piano, ha detto va caridai. E cosa denuncia? È entrato nel mio, a casa mia praticamente, il suo cane, cosa denuncia? Vabbè, in effetti quando sono dentro il cancello dovrebbero essere legati, boh, non lo so come funzioni nelle case, però quello lì ce l'aveva, ma la maneccia della pettorina, il guinzaglio ce l'aveva in mano, non aveva museruola, quei cani devono girare con la museruola e il guinzaglio per legge. E invece lui non aveva né museruola né guinzaglio, ce l'aveva per la maneccia della pettorina nel fuggito. Adesso prendo la gente di un profeta, lo porto a casa e lo faccio, e le dico, Leo assaggia un profeta per... Vecchime! Anche male, 50 volte ti avevo chiamato, e dici? Te l'ho detto che mi stavo assentando e stavo facendo l'aerosol. Quella sera, raffreddato? Sì, col tabacco. Ma non è che stavi usando l'arghilino? Sì, mi faccio due pizze qua, se no mi addormento. Ciao Eugenio, ben sentito. Sì. Aspetta, sovramodulato, riprendi già. Ho detto, se ti stai facendo l'aerosol con l'arghilì. No, no, mi manca ancora quello. Solo quello ci manca, oi oia. Ciao Eugenio. Ciao Daniele, buongiorno, buonasera, mi sentito. Migliorato il mio segnale? Sì, adesso là. Adesso mi muovo più Twitter. Migliorato a Gianni, Gianni Cosso, Don Gianni, sì, il professa. Eh beh, lui sì, dai. No, io ho sistemato un po' di cose qua e volevo sapere se... Che tu eri il punto più lontano per adesso, a vedere come ti stavo arrivando. Guarda, dalle mie parti sei... sale a 1. Lo smitter lo mandi a Santiago 1 praticamente, però prima arrivo a Santiago 0, sentivo solo la radio, adesso c'è la radio bella comprensibile. E io come ti arrivo Eugenio? Eugenio. Ma tu sporca chi cazzo, ma ci sono cose da dire, vai via. Sto provando questo apparecchio, no, come va? Aspetta, stiamo parlando qualcuno già. Ospiti Gonzales, ma insomma, bianco niente, tutto rosso qua. Ciao a tutti, ciao Gianni, ciao come si chiama? Eugenio, poi c'è anche Gianni quello del treno, del trenino anzi, e poi c'è anche Daniele. Salutoni a tutti, buona serata, avanti, dipendi Gianni dal Monte. Eia, ciao Giulio, mi senti? Anche se arrivo oggi, come mai? Sappiamo che tu sei astemio, che non bevi né bianco né rosso, quindi siamo a posto. Oia. E come mai così tardi, Giulio? Ma devo dirti che ero più di un'ora al telefono con Antonio Riserva, eravamo tanto tempo senza sentirci, per cui abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata, non per un'ora, sempre al telefonino, e dopodiché sono salito 5 minuti fa, il tempo di far scaldare appena la radio e poi per entrare a salutare, niente di particolare, solo per quel motivo lì. Poi per il resto, stavo guardando ancora prima di Antonio, stavo guardando Primo Ether, che a me piacciono moltissimo, per cui vi guardo sempre, quando ci sono alla televisione li guardo sempre, i Primo Ether, mi piacciono. E va bene, dai. Faccio girare, vai Eugenio. E io ne approfitto per salutarti che devo scendere, che mi hanno chiamato, devo scendere da il piccino, dai. Ci sentiamo ragazzi. Ciao Lucoffè, ciao Daniele, ciao doppio numero, attento poi entrato. Dai giù, ci sentiamo, adesso non ti senti meglio a casa, dai. Ma boh, ci sentiamo più tardi, vado a vedere come sta questo cane qua, dai. Ciao. Ciao Eugenio, alla prossima, ben ascoltato dai, ci si aggiorna prossimamente. Buonasera Giulio, ben entrato anche a te, dammi un referto anche tu, che stamattina ho messo la boomerang, dimmi come ti arrivo. È migliorato, non più 5, va bene, la radio è buonissima. Ciao Eugenio, salutoni, a risentirci dai, a presto, oggi io sono arrivato tardi, però diciamo che... Già eravate tutti quanti sempre nel mio pensiero, però ripeto, ero al telefono con Antonio Riserva, un amico della frequenza che ero un sacco di tempo senza sentirlo, e dunque mi ha chiamato e abbiamo fatto quattro chiacchiere. Avanti Gianni Lumbrefetta, 9 più 5, sì, hai migliorato come segnale, va bene, la radio è anche migliore, dai. Bene, Meda, grazie mille. Sì, adesso praticamente abbiamo fatto un resoconto completo e niente, questo ci gratifica e ci fa, insomma, ci fa molto piacere. Sempre grazie a Daniele e niente, dai, avanti Daniele. KK, salutoni Giulio, ben sentito. C'è qualcuno sul 23, mi sta ammazzando. Ehi, vabbè, no, io non lo sento. Non lo sento assolutamente, vabbè, dai. Ciao Daniele, salutoni anche a te. Ben ascoltato. Va bene, che dire? Stavate parlando un pochino anche di cani, io non vi posso dire niente perché cani non ne ho, per cui... Lascio a voi e l'assist, allora, per lanciare l'assist, avanti Gianni. Ehi, no, stavo guardando chi c'è su 23. No, a me non mi rompono le scatole, pure ce le ho vicine, come mai? Cosa c'è? La Fayette? Bah, il Midland c'hai. E allora? Questo bastone niente prende il colpi. Quello lì sì. Quello tutto è quello solo in macchina, è un apparato bello massiccio, però c'ha quel difetto che prende un bel colpi. Quello, la Midland è tanti anni che lo fa, non ha mai migliorato questa problematica che ci aveva. Vabbè dai, già mi miglioro anch'io. Di questo ce lo rispedisco in macchina. E a casa metti quello grande e fai bene. Così faccio già. Faccio proprio così. Va bene, dai, avanti a chi tocca, io prendo il profè. Attento Gianni, lo profetta, non lo prendi? Sì, magari si è allontanato con qualche bassa. Probabile, sì, in effetti sarà così sicuramente. Va bene, dai. Comunque. No, già ha migliorato, adesso ha migliorato, ha messo la boomerang. Meglio di niente, ma già va bene, dai, adesso ha migliorato anche di segnare. Per cui va bene, la radio è ultima. Perfetta, per cui non c'è che dire, niente da eccepire, avanti Gianni. Via. No vabbè, sono contento, dai, che piano piano si sta migliorando, i passi si fanno piano piano, vabbè che io ho speso più soldi così facendo di piano piano che se l'avessi fatto tutto in una volta, perché prima prendi una cosa, poi prendi un'altra, poi prendi un'altra, spendi più soldi che prendere magari un apparecchio che ti piace una volta per tutti i vita. Beh certo, quello già è vero, un passettino per l'altra volta e si va molto lontano, si riesce ad arrivare molto lontano, certo, vabbè, anche perché in questo campo qua fretta non ne abbiamo, non ne ha nessuno, o perlomeno noi CB non ne abbiamo fretta, piano piano, un antennino oggi, un microfono domani, una radio migliore domani, ancora, e così via, e dunque si va avanti. Si va avanti e ci sentiamo, è quello che a noi piace, sentirci, salutarci e andare sempre d'amore d'accordo tutto il santo giorno e tutti i santi mesi e tutti i santi anni a venire, speriamo che ce ne siano ancora tanti, e chi lo sa. Vediamo se è rientrato l'Ubrefetta, guardate l'Ubrefetta. Eia, mi sono dovuto rispondere a una bassa. Stamattina, cioè verso primo pomeriggio o stamattina, adesso non mi ricordo, sì, forse verso l'ora di pranzo, è entrato Marino giusto per un controllo e mi ha detto che anche a Ottava arriva 9.5, quindi anche lì il segnale è buono. Sì, c'è stato un miglioramento e va bene, indubbiamente rispetto a quella di prima, lo credo, trovare un'antenna di macchina, poi sul tetto, tu pensa adesso ne arrivi anche più forte, un po' più forte di Franco del Monte Basso, per cui devi pensare quello, però Franco si sa, l'antenna ce l'ha attaccata al filo dove si stende la roba per asciugare, figurati alla staffa lì, è dunque attaccata lungo la facciata, lui è in basso e sopra c'è un altro piano, puoi immaginare, se la mette sul tetto anche lui arriva fortissimo, non forse, minimo mi arriva 9.15, minimo, già mi arriva oltre 9, 9.2 modulate, dai, però se la mette sul tetto, quella autocostruita, sicuramente arriva non meno di 9.15 qua, questo è scontatissimo. E lo stesso discorso vale per te, se dovessi mettere tu un'antenna, una 5 travi anziché un 4 onda come la boomerang, anche quello chiaramente saresti ancora più forte come segnale. Va bene, comunque va benissimo anche così, non ci sono problemi. Avanti Daniele. KK. Aspetta, sono arrivati un po' di notifiche, vabbè. Ehi, è così giù, abbiamo sperimentato questa nuova postazione. I risultati si sono visti, dai, meglio così. Almeno gira bene quell'antenna. Sì, va bene, va, perché se va bene. Se ne è in abbondanza anche. Se ne è in abbondanza. Arrivare qui con quel segnale è già un ottimo segnale. Dunque va bene, Giulia. Considerando anche che io sono con un dipolo, per cui la ricezione che ho, essendo anche in basso, ma vediamo un po' adesso in estate, appena che inizia il tempo bello, di spostarlo questo dipolo autocostruito, di spostarlo dove c'era prima la mantova a turbo, che significherebbe averlo più in alto di almeno 5-6 metri, anzi senza almeno, sicuramente almeno 6 metri più in alto, e dunque migliorerà anche la vostra ricezione nei miei confronti e soprattutto anche la mia trasmissione, sempre nei vostri confronti, per cui va bene così, dai. Non ci lamentiamo, la radio sta andando sempre molto bene, qui grazie a Dio funziona alla grande, lo sto usando quasi tutte le sere, difficilmente non lo accendo la sera, poi magari sono arrivato un po' tardi, però non smetterò mai di ringraziare l'amico che me l'ha riparato, perché mi ha fatto veramente un gran bel lavoro e sono contentissimo. Va bene, non faccio il nome, ma penso che voi tutti lo conosciate. Avanti Gianni. Mi sa che è arrivata l'ora, io vi saluto tutti cordialmente, vado a portare giù Tyson, dai, un pochino e poi risalgo a casa a mangiare, dai. Grazie per il QSO, buona serata, magari ci sentiamo domani. Ciao. Ok, ciao Gianni, allora, grazie a te per la piccola chiacchierata, oggi è stata cortissima, almeno con me, e ci sentiamo alle prossime, dai. Faccio girare per i saluti. Avanti, super festa. Ehi, ciao doppio rum, ben sentito, dai. Grazie alla chiacchierata, ci si aggiorna quanto prima. Buona passeggiata, buona carica e tante belle cose. Ok, dai, avanti Daniele. Di nuovo, ciao a tutti, ciao Profetta, ci sentiamo, dai. A domani. Ok, ciao di nuovo Gianni, ciao. Daniele è andato di nuovo a ossigenarsi col fumo. Adesso lui si sta ossigenando di nuovo con la sigaretta. Vero, Profetta. Ehi, chi va? Ciao Gianni Gay! Praticamente buon tutto, no, non sono andato a ossigenarmi, sono andato a controllare il fuoco che ho acceso il caminetto. Hai fatto bene, tu hai bisogno di controllarlo sempre. Va benissimo così, o Daniele. Sì, no, appunto, cosa dire, discorsi, di cosa parliamo, non lo so. Allora Gianni, adesso sei contento che hai la boomerang e va bene così, dai, cos'è quella con un radialino? Sì, quella con... è quella della LEM, praticamente è alta 3 metri e qualcosa. E ho preso... sì, è quella col radialino, praticamente ho letto, mi sono informato e quel radialino andava posizionato a circa, andava posizionato a 45 gradi. Allora ho preso un goniometro, mi sono attrezzato, ho preso la misura a 45 gradi e ho stretto il radialino. Poi gli ho montato il PL e l'ho piazzata e sta andando. Sì, sta andando, va bene, problemi non ce ne sono. Si sente bene, si sente molto bene, il segnale rispetto è discreto, rispetto a come era prima, per cui meglio di così. Sicuramente riuscirà a fare anche dei DX con quella antennina lì. Non saranno grandissimi DX, però diciamo che quando la preparazione è buona, anche con la boomerang si possono fare DX. perlomeno a mia dietro si facevano un nome a caso, Marino ad esempio, quando abitavo lì a Montarosello, lui aveva sempre un antennino così tipo boomerang stesso, eppure faceva ugualmente gli ex, se ne ha fatto tantissimo, andava molto bene anche lui. Vabbè, là riprendi Daniele. Andava, sì, anche io, è stata la mia prima antenna, la boomerang, e poi l'altra, la gemella, si è rotta, si è proprio troncato il pezzo dello stilo centrale, diciamo, e non so dove sia finito, questo me lo devo sempre spiegare, che non c'è in terra, sarà scaduta sul tetto, e con quella lo stesso modulavo tranquillamente, senza problemi, era un po' tappata, perché ancora c'avevo bassa. Ma per il resto non mi sono mai lamentato. Ok, poi ti voglio chiedere anche un'altra cosa, Giulio. Tu c'hai presente la Ringo come antenna? Sì, che ce l'ho presente. Ascolta, la bobina deve passare in mezzo all'antenna, giusto? La? Che cosa? Qual è? Ma? La bobina. Ah, la bobina. Perché? Cosa è successo? Si è interrotta? No. Siccome le ho fatto passare la bobina dopo l'antenna, diciamo, lo spirale passa dopo, non passa in mezzo. Però funge tutto, è stazionario e per adesso non ne ho. Se sta andando bene vuol dire che va bene anche così. Non lo so se possa creare dei problemi quando è così, non lo so. Ma non credo, però se sta andando bene, se la non ne hai, vuol dire che va bene così, vuol dire che va bene ugualmente, no? Adesso sì, perché stavo guardando io la verità sì che non l'ho mai piazzata e mai visto come si piazza. Poi guardando un po' su internet, facendomi un po' il giro di conti, ho detto c'è qualcosa che non mi torna, mi sono guardato la mia e ho detto cavolo, ho fatto una cappella, diciamo. Però quando l'ho piazzata l'ho provata a tararle un po' in diverse posizioni, no? il morsetto che c'ha, eppure salgono e scendono le stazionarie tranquillamente, capito? Infatti quando si muove proprio per le stazionarie, sempre per regolare le stazionarie, certo, però sì, ma se tu hai già misurato e sei arrivato ad una soluzione, vuol dire che va bene in quella posizione che l'hai fermata, che l'hai bloccata, no? Sì, perché tara, cioè accorda tranquillamente, quindi vuol dire che anche così funziona. Mannaggia a me, mannaggia. Ehi, va bene, sempre vanno esattamente lo stesso, no? Dopotutto devi considerare dove ce l'hai installata, il problema è sempre quello, l'installazione, c'è la facciata, c'è il muro che ti impedisce di arrivare anche più forte, ma se tu quello da dove sei messo sul tetto, sicuramente guarda, fai molto ma molto di più, questo è più che normale. Cosa vuoi pretendere? Quando è attaccata la ringhiera così, che spunta per al tetto, non è che sei in ultima collocazione, no? Assolutamente no. Per cui, visto considerato che non puoi salire a metterla sul tetto, allora purtroppo ti devi accontentare così. Va bene, dai, riprende, fai girare. Ehi, no, adesso è oltre al tetto, Giulio, è oltre al tetto, ho sollevato tutti gli elementi del palo. Finalmente ce l'ho fatta e l'ho scavalcato il tetto. Quindi i problemi adesso è libera, non c'ha più muri né niente. Sì, d'accordo, però oltre al tetto quanto può essere, lei ha appena scavalcato e basta, ma niente di più. Sei sempre a livello di tegole, o grosso modo sei lì. Per cui si sa, sei sempre. Hai sempre un ostacolo avanti, ecco qua, perlomeno in una direzione, in quella determinata direzione, poi dall'altra parte magari potresti anche andare meglio, però dove tu sei a spalle, sono io, o meglio il tuo palazzo è girato a spalle, mi dà le spalle a me verso questa parte, sicuramente il tetto ti ostacola un pochino. Capo a capo, dai, riprendi Gianni. Ehi, sento un apportante, c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Portante silenziosa, vabbè. Ok Giulio, ho sentito, ha fatto un'entrata a Massimiliano, ma poi si è spostato, adesso non so se rientra. Non l'ho sentito io a Massimiliano, lo ripeto, sono arrivato tardi, stasera ho acceso tardi, per cui non l'ho sentito, ho sentito solo voi. A te, a Daniele, a Eugenio per 2 minuti e Gianni, basta, Gianni doppio giù, basta, non ho sentito nessun altro, perciò non so, qua non è entrato c'è stasera? Non ti ho capito giù, scusa, puoi ripetere? Ho detto se Claudio è entrato in frequenza, se l'avete sentito. Sì, è entrato, stava chiacchierando con Fabrizio, però poi si è spostato perché doveva portare il cane a fare la passeggiata. Ha detto che sarebbe rientrato. Ah ok. Fabrizio, quale Fabrizio? Fabrizio l'animatore o Fabrizio quello della Feroce? Fabrizio credo un tecnico, mi è sembrato di capire che fosse un tecnico. Ah Fabrizio, mi dispiace, non l'avevo sentito. Fabrizio è il dottore della mia radio, che mi aveva fatto tempo fa, mi aveva fatto un lavoro proprio perfetto al mio 440, proprio, me l'aveva sistemato una meraviglia, veramente, un gran bellissimo lavoro. È stato veramente bravo, bravo, bravo, bravo, e non smetterò mai di ringraziarlo quando lo sento in frequenza, sicuramente lo ringrazierò sempre. No, ha fatto veramente un bel lavoro. Ah, mi dispiace, non l'avevo sentito. Ah, c'era anche Fabrizio. Spero che stia mettendo a posto una stazione, che purtroppo avevo avuto dei problemi a riguardo con quell'incidentaccio lì del funnel, Madonna Santissima, proprio a lui doveva capitare. Vabbè, purtroppo quello non guarda in faccia a nessuno. Avanti, riprendi. Ehi, sì. È entrato un attimo, stavo parlando con Claudio di alcune cose, sì, e niente, poi stava giusto lavorando su dell'altra roba e dice, magari anche in ascolto adesso, non lo so, comunque, niente, ci stava raccontando un po' di cose su quello che gli è accaduto, insomma, e ci c'è niente. Si è dedicato a fare altro, dai. Bene Meda, ho sentito una portante poco fa, non so se c'è qualcuno che vuole entrare. Siamo qua, se qualcuno vuole entrare siamo qua, problemi non ce ne sono. Oh, Madonna Santissima, ragazzi. Se lo sapevo che c'era Fabrizio, sarei entrato a salutarlo almeno. Vabbè, capiterà la prossima volta degli esercizi frequenti. Ma era proprio qua su questo canale, molto si è trattenuto qua su questo canale? Sì, stavano scambiando informazioni con Claudio, insomma, di apparati e di altre questioni riguardo radio e cose varie, insomma, ci stava raccontando un po' di cose, che stava sistemando alcune apparecchiature, e tra l'altro ha scambiato anche qualche battuta anche con Daniele riguardo una radio, non so, ma se non mi ricordo, comunque si è trattenuto un po' e ciccia. Oh, caspita, vabbè, pazienza, dai. Avremo modo di risentirci magari in un altro momento. Bene, bene, bene, bene. Sì, perché lui ha avuto purtroppo quella sfortuna che il fulmine gli ha danneggiato tutta la radio e tante altre cose, anche più importanti delle radio, per cui mi è dispiaciuto moltissimo, veramente, guarda. Mi è dispiaciuto veramente tanto, perché non se lo meritava proprio una cosa del genere. Ma comunque, purtroppo il fulmine non guarda in faccia a nessuno, può capitare a chiunque, per carità, speriamo che non succeda mai più a nessuno, perché sono cose terribili. Va bene, dai, avanti Daniele. Ehi a Giulio, io dai, chiudo, sono fatte già più delle 8, che adesso vado a fare la carichetta. Va bene ragazzi, dai, ci ascoltiamo domani se coincide, buon proseguimento e buon tutto. Ok, ciao Daniel, ciao. Stammi bene e ci sentiamo domani se coincide, dai. C'è stata un'altra apparizione, avanti, chi era? Buonasera, ciao Giulio, ciao Gianni, ciao Daniele, buon cuoretti a domani se coincide. Avanti Giulio, cambio. Ok, ciao, ciao Mari, salutoni. In fretta, sì, anche stasera. Sul 23 ieri? Stavo facendo delle prove sinceramente, non sono stato tutto quanto stasera, c'era l'antenna, sono andata quasi un altro metro e ho tolto il piede dell'antenna, per me l'avevo messa sotto l'antenna della 27, siccome ho 25 metri l'antenna di cavo, invece con la primavera era 20 metri, ne avevo aggiunto uno spezzone che ce l'avevo, e in effetti non stavo uscendo, era tutta a massa. Adesso tutto staccato e domattina, quando arrivo domani, mi sistemo tutto. Comunque l'ho provato, l'antenna l'ho piazzata, sotto, ho portato sotto antenna, va benissimo. E c'è una spezzone che l'ammazza sicuramente. Avanti Giulio, fa girare. Ok, vai, sì, sì, invece. Vabbè, controlla per benino, già lo sai come si deve fare, per cui proprio non c'è so. Se è il caso, poi se il capo te lo metti nuovo, non se ne parla più. Così almeno risolvi il problema definitivamente. Va bene, va bene. Avanti Gianni, per Marino, che è entrato a salutarci. Ciao Marino, ben sentito, ben sentito. Arrivi forte con una radio bella compressa, 9.20 e la radio è super, super compressa. Gianni, non lo so, ci siamo sentiti stasera per un controllo, c'è tu e Daniele. Cioè, stavo facendo le prove, stavo piazzando l'antenna, stavo tutto spostando e mi si faceva quel controllo là. Adesso ho terminato, sono messo a conto dove era il casotto, diciamo, lo spezzone era in massa. Domani facciamo tutto. Bene, chi c'è? Daniele, Giulio e poi chi c'è? Avanti Daniele. No, Daniele mi sa che ha salutato. Salutato e se n'è andato. No, ci siamo solo noi tre, io, tu e Gianni e basta. Oggi io sono arrivato un po' tardi, perché ero al telefono con un amico per oltre un'ora, già lo conosce, già l'hai conosciuto, Antonio De Selva, già te lo ricordi, un vecchio CB, da oltre 30 anni anche lui in frequenza, 30-35 anni più o meno, ed eravamo stato quel tempo senza sentirci e oggi mi ha chiamato e dunque prima almeno quando stavo lavorando in tanto veniva a salutarmi in falegnameria, poi adesso non essendoci più io lì chiaramente non poteva più trovare, per cui allora ha pensato di farmi una telefonatina e abbiamo parlato per oltre un'ora al telefono. No, va bene, ogni tanto gli amici meglio sentire. Ti volevo chiedere Giulio, l'altro giorno, diciamo quasi, un giorno sì, un giorno più o meno, lo vedo, all'amico nostro, a Pino, ma poi mi ha detto, ma Giulio è il laboratorio, ma Giulio è più o meno, non è sempre il laboratorio, ormai non c'è più nulla. Perché se no mi avvicinavo a fare vista, ma io posso dare il numero di telefono tuo giù. Ma non c'è bisogno perché ce l'ha, no, non c'è un problema, quello no, non si preoccupa, già ce l'ha il mio numero di telefono. No, ma ci siamo che sentiti al telefono tempo fa, per cui già ce l'ha il numero di telefono fino, ma da anni, no? Da adesso ce l'ha da anni. Da almeno 15 anni il mio numero di telefono fino, per cui sì, ogni tanto, poi vabbè, anch'io quando ero lì, lui aveva la sorella che abitava in quella stessa strada e dunque veniva magari per trovare la sorella, essendo io lì in quella strada veniva anche da me a salutare e tutto lì. Allora poi già ci siamo rivisti, adesso la sorella abita verso via Castelreda, non più in quella strada, e di tanto in tanto già passa in quella zona e quando ci sono già, ma lo sa, glielo ho anche detto tante volte, quando guarda che io sono sempre in zona, chiamami e così ci vediamo. ecco com'è la situazione. Ce l'ha, ce l'ha il telefono, no, non è un problema, o Mario, anzi, non dovrebbe avere due numeri, anzi, ce l'ha soltanto, per cui no, non è così all'oscuro del mio numero. Va bene, avanti Gianni. Bene, meta. Ok, ah, quindi ho capito, Marino ha trovato il problema, meglio così, dai, così almeno ci si sente un po' tutti, dai Marino, vieni avanti. E tu invece hai aumentato il segnale, aveva messo una ventina che ho avuto anch'io 30 o 40 anni fa, figurati, 40 anni no, ma 35 buoni sì. Con quell'antennino io ho fatto due ex, ma no qua vicino, e non lo so, c'erano le casse piene di cartoline con quell'antennino che ho fatto. Prima andava bene, poi la buttava sul tetto, intanto ha sempre funzionato. Ok, tu da 7 sei, no, quasi a 9 qualcosa, comunque va benissimo, la radio è bella forte, va bene, cambiato il microfono, comunque arriva abbastanza bene qui a ottava, anche ai punti, da Giulio. Bene, Giulio, avanti, no, io te l'ho chiesto perché ci siamo visti a quel giorno, so, come ci vediamo, andiamo a prendere il caffè, andiamo. E mi hai trovato, se vado, poi magari non lo trovo. Dove fai la scuola, dove fai? Forse non riuscivo a trovare il numero, era mezzo incasinato, vabbè, comunque se si casano bene, lo chiami, sei lui in zona già, vai e lo trovi, giù, tutto qua. Bene, avanti giù. Ok, adesso fra un po' lo chiamo io, perché di solito quando io vado a iniziare la pensione, la ritiro lì al Ponte Centrale, no? Lui è nella zona, come già è successo altre volte, gli faccio uno squillo, una volta gli ho fatto uno scherzetto, e non mi aveva riconosciuto. Adesso quando ritorno lì in quella zona lo chiamo di nuovo, così poi facciamo due passi anche insieme come abbiamo fatto altre volte e ci prendiamo un caffè insieme. Vabbè, salutamelo comunque, ma quando lo vedi salutalo da parte mia, che già mi farò sentire, diglielo che quando vengo lì da quelle parti lo chiamo, lui esce e così facciamo una chiacchieratina, perché lo so dove abita, lo so, non so dove è la strada, ma però so che nei paraggi di Via Begatazzata, vedrai, in quella zona lì. Ok, Marino? Ok, tu quando vai a ritirare la pensione, secondo che ora è, se sono 9:30, 10, fanno scudo anche a me, così ci troviamo, andiamo a bere il caffè, non c'è più quella casa, siete spedito all'interno, comunque vicinissimo, dai, prima era in via Torretta, adesso è all'interno, già vicino, già, io lo so perché ci vediamo, non dico ogni giorno, ma poco manca, la base è in gamba, sempre bello zillo, bello tranquillo, bene, avanti già. Ok. Bene così, adesso vediamo se rientra Claudio, se no, che lo so, sono già le 8:15. Bene, veda, dai, Maria, ti rilancio il mic, così prosegui, dai. Sicuramente Claudio sta andato a portare il cane a fare cose sue, già si sente Claudio come entra, avanti giù. Ok, ah, è andato a portare il cane Claudio, allora sarà per rientro, sarà già rientrato. Attento Di Bala, ci sei? No, chiamami Ken, non mi chiama Di Bala che non so più quanto, ma te edo. Ah, intendi, già è poco attento, giù lo senti, no? Ciao Claudio, ehi, per carità, manda via subito, non lo voglio più vedere con la Juve, E comunque hanno meritato qui, sono più forti e basta, non c'è niente da fare. Sono più forti, tutti quanti hanno fatto pena, alcuni di tre persone. Per me si è salvato, secondo me, il portiere, Sirni, Vinciano e Ronaldo. Tutti là se vuole buttare all'ammattatoio, a tagliare i lanci, così almeno corrono la prossima volta. Per carità, non è possibile. che figura, come si fa a capire. Facciamo il vantaggio là, in Olanda, e poi riescono a pareggiare. Facciamo il vantaggio in Italia e poi addirittura ci battono. Allegri. E gli ha rinnovato di nuovo il contratto, gli rinnova di nuovo il contratto, quell'ignorante di Agnelli, che si tiene questo allenatore che non capisce un accidente, per carità. Ma comunque, non mai fatta, dai, al prossimo anno adesso se ne riparlerà. Avanti Gianni. Ehi, aspetta, dai, che facciamo rientrare la Claudia, avanti qua. Sì, non c'è problema, mi stavo sistemando, ciao Mari. Ciao Giulio, a te ti ho salutato prima, ti risaluto. Ho fatto una passeggiatina un po' col cane, adesso mi sta aspettando rientri mia figlia e poi si c'è. Giulio, da pena, la cosa che mi infastidisce, a prescindere che l'Ajax abbia meritato o meno, perché hanno giocato, la cosa che mi infastidisce di più è che ci abbiamo fatto il mazzo per fare un gol in Olanda. Arrivano qua e ci battono 2-1, ma non esiste una cosa del genere, non esiste. Poi a prescindere da tutto il resto, gli sbagli e i cambi, come fai tu a mettere Dybala in campo? Un morto, un cadavere, si è fatto male Borra Raggiura. Non metti, sai già che non c'è Mandzukic, serve uno veloce, serve uno che si muove, giovane, che corre, mettevi a Ken, ok, poi mi lasci a Spinazzola in panchina, va bene che Quadrado e Douglas Costa non erano disponibili, ma mi lasci a Spinazzola in panchina e mi poni, De Sciglio andava anche bene, la partita più o meno l'ha fatta. Ma le palle che ha perso Alessandro, una cosa allucinante. Allora voi cosa fate? Si buca De Sciglio e mi muore chissà un cadavere di Cancelo. Guarda, una cosa allucinante. Io sull'1-1 già stavo cambiando, ma forse andiamo ai supplementari, mica segna nessun calcio piazzato. Una cosa vergognosa. C'è una squadra che ha fatto 3 gol all'Atletico Madrid, che ha perso 2-1 a Madrid, si fa battere da una squadra del genere, ma stiamo scherzando, in casa, con 70.000 spettatori, una vergogna totale. Stai attento perché ho letto qualcosa, forse Ronaldo a settembre va via dalla Juve a settembre, perché non le piace come si gioca nella Juventus, non le piace. E te ne sei accorto che i 2 gol che ha fatto, l'andata e il ritorno, se li ha cercati lui, capito? Nessuno le dà la palla, nessuno lo chiama, nessuno lo cerca. Chi sono Bernardeschi, chi fu Fusiraddu, fa solo gioco personale e basta, ha fatto una partita di merda, scusate il termine. E non aggiungo altro, va bene così, sono stati spesi 200 milioni di euro per giocare in Champions alla pari degli altri, abbiamo fatto schifo dove? A Torino, schifo a Torino, in casa, avanti Marì. Guarda, io ti dico una cosa, io sinceramente di calcio zero, ma non lo intendo, ma Giulio ha detto le stesse cose che ha detto De Rudi, che gli mentire da come è nata, insieme a mio genio la stessa cosa, ha detto le stesse cose, proprio uno schifo, proprio al 100%, guarda, e anch'io sento una voce sinceramente che per me è cosa se ne va via, Leonardo se ne va via, secondo me se ne va via, o cambia le dettagli del coso, l'allenatore, o se ne va via, l'allenatore, lo mandano via, ma questa volta è arrivato proprio schifo al 100%, avanti giù. Ok, sì, no, ma è perché un allenatore che non capisce niente, non capisce l'accidente. Voi mi direte, ma ha vinto 5 anni di seguito con la Juve? Certo che ha vinto 5 anni di seguito, ma non ha vinto lui, no, sono gli altri che hanno vinto per lui. Perché? Perché i giocatori che hanno sono di gran lunga superiori a tutti gli altri, quelli che dell'Italia, ma poi a livello internazionale sono poi per terra a terra. Perché? Perché lui non è stato mai in grado di dargli un gioco alla squadra, e tutti i tifosi si sono lamentati da anni, si stanno sempre lamentando continuamente, o ancora oggi più di prima si lamentano, perché è giusto che si lamentano. perché lui non è stato capace di dare un gioco valido ad una squadra, ragazzi, che ha 20 punti, aveva 20 punti più della seconda nel campionato di Serie A. E allora a questo punto cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare innanzitutto che le altre squadre sono troppo carenti, e allo stesso tempo che lui non è in grado di mantenere una squadra di campioni, perché non li sa mettere in campo, incominciando da questi passaggi laterali che dà, che fa sempre questi passaggetti, sempre tutte le volte che c'è un'azione incominciano sempre da dietro, se sei già in attacco ti tornano indietro, ma quando mai uno deve giocare così? Ma non conosce il gioco in verticale questo disgraziato dell'allenatore? No, però mi dà fastidio a Allegri, cioè mi dà fastidio più a Allegri che ne riconferma il contratto. Io spero che sia lui ad andarsene Allegri, così almeno Allegri si cerca un altro allenatore come si deve, uno che fa per la Juve, non un morto, perché quello lì è un morto come allenatore, non sa niente di calcio internazionale. In Italia, ripeto, ha vinto e continuerà anche a vincere, però con quegli uomini qualunque allenatore vincerebbe, non solo lui. Vai Gianni. Anch'io come Marino sono un po' distaccato, quindi non preferisco non esprimermi, anche perché non saprei cosa dire, quindi rilancio la palla a Claudio. Sì, anch'io ho fatto l'arrosto perché è una bella graticola. Buonasera. Ciao a tutti. No, io non devo aggiungere niente, a me va bene così. Quello che ho visto e quello che ho detto rimango solidale con tutto ciò, quindi non me ne affutti nulla, che rimanga, non rimanga, vi si impicchiani, io non mi interessa più niente. Sto guardando se stasera c'è qualcosa, mi pare, se c'è qualche altra partita, non so. Ciao, ti riprendi. Buonasera a tutti, no, io sono neutrale, non capisco niente di calcio, quindi per dire la verità non l'ho neanche visto. Hai fatto bene a non vederla, vai giù. Ok, non hai perso niente, Tino. Ciao Tino. Non hai perso più niente, poi che non ti piace soprattutto il calcio, per cui che non avrei motivo nemmeno di vedere e nemmeno di parlarne. Dunque cambiamo il discorso, così visto adesso che ci sono tre amici in ruota che non sono interessati al calcio, per cui claro, quando saremo da soli faremo un commento più lungo. Adesso cambiamo il discorso. Avanti Tino, cosa ci racconti oggi? Niente, sto rientrando dal campo di calcio di mio figlio, forse le uniche partite che sto seguendo a questo punto sono queste dei ragazzi, perché diciamo che mi prendono di più di quelle attuali. No, io sono da ragazzino, purtroppo non mi ha mai fregato niente di calcio, quindi ecco perché dico la mia. Poi Giulio, per carità, ognuno ha i suoi gusti, le sue gioie, le sue cose. Io ero appassionato di sport, di judo, perché l'ho praticato, però neanche lo seguivo, figurati, ognuno bisogna dare quel che vuole, figurati. Se a voi piace, non è che devo essere io a privarvi del parlarlo, per carità, riprendi Giulio. Ma qualche partita c'è? Ma ci dovrebbe essere il Napoli, dicevo, no? Credo che sia il Napoli stanotte. Boh, basta, non ne voglio più guardare il calcio, perché sono ancora di malumore. Ho mangiato lo stesso e ho dormito lo stesso stanotte, non è che sono pensato, non è che sono uno di quelli che si affligge troppo. Meglio Baedi, era il messo, meglio Baedi, intanto lui non se ne vede niente, per cui non avrebbe fatto niente se avevo vinto, perché siamo 25 anni senza vincere questa pianeta che ci sono lì. Siamo stanchi di vincere i campionati, e però che siamo assolutamente indietro con la Coppa Internazionale, con la Coppa Europea, e dunque è quello che è il problema, e mi si è sconsiderato che uno di questa squadra che vince sempre qua. Una volta avremmo voluto vedere anche vincere la Champions League, invece niente da fare. Va bene, dai, ritenterà il prossimo anno, ma io non mi scaldo più di tanto comunque, assolutamente. Vai Marino. Ne approfitto così, faccio un momentino, mi stavo chiamando. Guarda che c'è la linea, non stanno, se c'è la linea, modestamente, controllate, è in lunetta la linea, bene. Ciao Claudio, ciao Tino, ciao Gianni, ciao Giulio, ciao anche l'amico che è stato modulato, io faccio quello sì. Oh Giulio, purtroppo non dico, il pallone è fondo, a mangiare a me il pallone non me ne dà, gli ripeto, non mi intendo io. Io a casa ho mio moglie, mio genero che va a cucinare con mio nipote che gioca a pallone, che domenica era insieme, non dico insieme a Tino, però era quasi così. Tino ha mangiato anche Alessano, dunque io non ci sono andato perché stavo facendo altre cose, sono andato anch'io. E a me il pallone sinceramente 0.0. Non è piaciuta la passata e basta. Bene, ok, ciao a tutti quanti, faccio quello che ti avanti, Claudio. Ehi, ehi, lasciamo perdere, detto, già va bene così. Mi lo stanno facendo vedere adesso canale 5 e ho cambiato. Un giocatore che va a cercarsi gol in quella maniera, nessuno l'aiuta, ma come si fa? Lasciamo perdere. Bene ragazzi, anch'io vi saluto, che è pronta la cena. Ciao Giulio, ciao Tino, ciao Gianni il Profeta, ciao Marino, ciao chiunque sia in ascolto, ho sentito una sovramodulazione, non so chi sia, o per dire una sottomodulazione, se vuole venire avanti il cambio per lui, se no riprendi tu, Tino. Va bene, ciao Marino, ciao Claudio, buona carica ad entrambi, comunque io sono del parere di Marino stesso, e anche a me piace, cosa piace a Marino. Vabbè, ciao Gianni. Ciao Tino, ben sentito, vabbè, volevo salutarti poco fa, però giustamente avevano il microfono gli altri, e niente, comunque buonasera, anche io faccio qualche altro passaggio insomma, e poi faccio quello di anch'io, salutone a Marino, a Claudio, ci risentiremo quanto prima, e niente, Tino, visto che sei a portata del microfono, ho messo la boomerang stamattina, mi dici come, mi dai un tuo referto? Ti ho salvato da poc'anzi, sì, no, per pieno, qua in questo apparato, però magari sicuramente con l'altro arrivi ancora più forte, tenendo conto che ieri arriva V7. Bene, bene, sono contento. Ho sentito Eugenio e mi ha detto che praticamente giù a Porto Torres arrivo a 6 con Radio 5, dice che sono passato dalla notte al giorno. Vabbè, ho dalla giorno alla notte, sì, ok, va bene, va bene. Giulio, riprenditela. Purtroppo Giulio non te la prendere, non siamo sportivi accaniti, per carità. Quando vedo io sono accanito, tu pensa che quando io guardo la partita, quando c'è un gol, quello che lo segna la Juve o quello subisce, io nemmeno mi muovo, non piatto nemmeno, guardo e basta, però mi sarebbe piaciuto vedere una squadra che io simpatizzo, vederla se non altro riuscire di tanto in tanto, non dico sempre tutti gli anni, ma sono passati 25 anni che non vince più questa coppa. Una squadra ragazzi che ha 110, 112 anni, 115 anni di vita e non riesce a vincere per la terza volta questa benedetta coppa. Il Milan ne ha vinto 6 mi sembra o 7 e il Real Madrid ne ha vinto una decina, non lo so io, è la Juve ragazzi che è una squadra di grido, non riesce a fare la terza coppa, ma comunque saremo a vedere al prossimo anno, adesso intanto adesso solo dal prossimo anno si può parlare, perché per quest'anno il campionato è vinto, lo sappiamo, basta un pareggio, basta un punto in queste rimanenti partite che ci sono, 6 partite mi sembra che sono rimaste a giocare, un punto lo fa magari la prossima partita con la Fiorentina che faccia che il punto se lo guadagna e dunque è automaticamente campione d'Italia per l'ennesima volta, 8 anni di seguito. Però i tifosi non sono assolutamente contenti perché vorrebbero per la Coppa dei Campioni. come succede per squadre di grido. Ambi conferma! Come lo stesso Milan degli anni passati, eccetera, eccetera. Tutto lì. Va bene, va. Avanti Gianni. C'era qualcuno che ti ha soprammodulato giù, avanti. Oh, vabbè, comunque ragazzi dai. Io, visto che c'è il microfono a portata di mano, io vi saluto. Grazie della chiacchierata a tutti quanti, Tino, Claudio, Daniele, Marino, insomma, Eugenio, Fabrizio e tutti quelli della ruota di stasera, dai. Una buona serata, una buona carica a tutti e ci sentiamo presto. Ok, grazie mille e alla prossima. Vabbè dai, lo prendo io. D'accordo, ci si riascolta più tardi se coincide, se ne voglia, se ne avete voglia, siamo qua. Ok, chi c'è rimasto? A parte Claudio che è andato a fare carica, Marino, Ilan, Gianni, Giulio, poi chi c'era? Non solo giù, non c'era. Ok, anch'io chiudo adesso, dai. Sì, no, ormai c'era Claudio, ripeto, c'era Marino, c'era Gianni, c'era anche Daniele, ma ormai sono tutti quanti in stand-by. Ci sentiamo, anch'io chiudo, dai. Saluto a tutti, grazie per la chiacchieratina, alle prossime. Ciao a tutti. Va bene, sono rimasto da solo allora. Ok, chiudo anch'io. Ciao, divertitevi. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao.